Registro anche perché so che queste cose piacciono un sacco a Lorenzo. È il 16 di dicembre, sono 18:48 e abbiamo inventato una nuova trasmissione adesso. Si chiama Il Salotto di Zona Rossa ed è un posto dove arrivano solo intellettuali e io. Infatti è il Io che dolce sono. vita, è il dolce vita Il dolce infatti. vita, esatto. Io sono il cugino di Guglielmo, sono Giuliano Corradi. E l'idiota di mio cugino non è capace di fare niente, fa quella trasmissione da bifolco. E invece a me piace intrattenermi con gli intellettuali. In questo caso, udito udito, abbiamo con noi il famosissimo ormai attore Tommaso Russi, che ci presenterà in sette parole la sua carriera artistica. Sette parole. Mi hai usato tre. Sette, no, due, scusa. Zamteatro. Ok. Siamo a cinque. E mi hai fatto un dito medio, peraltro. No, Volevo no. segnare, io sono Giuliano Corradi, ho una cultura incredibile. Milano, Zamteatro, Venezia. Cazzo. Pinelli. Che viaggio, che viaggio. Pinelli comunque guarda che è stato un bel film. Bel film, complimentoni davvero. Oggi, scusami, frecciata così a caso, oggi ho incontrato Enrico Pittalunga. Fisca, Allora, Pitta. all'ortomercato di Milano, non faceva Pitta l'ortofrutticolo. che col Teatro Nazionale di Genova fa lo Guarda che spettacolo, ha ma va spinto di che brutto, no? lui a Genova, io in quello del pian pianino. Guarda che vi abbiamo creato noi, Ma vi va abbiamo che. costruito noi. Io sono Giuliano Corradi, non faccio parte di Zam, fa parte di Zam mio cugino, ma ogni infatti, tanto mi Giuliano. confondo anch'io, Giuliano, e quindi sbaglio. Ma Tommaso, dai, su, parlaci un attimo, com'è fare l'attore durante il Covid? È una merda perché. Cioè, già prima era precario, adesso ancora di più. Il problema è che ti ritrovi che, a parte i ristori, che a molti non sono arrivati, Ah. molti non avevano neanche le caratteristiche per averli, Essere riconosciuti. essere riconosciuti, bravo. E poi il problema è che a livello di programmi, col fatto che forse si riparte e poi non si riparte, c'è chi è stato. Ad esempio, a me è successo che io fino al 20 di ottobre pensavo che il 20 novembre avremmo iniziato delle prove pagate con dei soldi. Chiaro. E niente, sono saltate il. Per fortuna poi io ho trovato un altro lavoro che inizierò a gennaio, ma quel lavoro lì è saltato il 15 di novembre. Quindi 5 giorni per prima. gli altri che io avevo già trovato, vi hanno detto guardate no, ma per gli altri che magari contavano su quello, 5 giorni prima si sono trovati inculati, con costumi già fatti, con pro Chiaro, alcune pro. Cioè, spese già affrontate. sì, io sarei dovuto andare a Roma per fare la prova costume. Avevo anticipato, avevo Ah, messo perché io i una soldi. produzione della Madonna. Sì, era grossa. Ma ne puoi parlare? Ciao, non se ne può parlare, che è Vabbè, segreto, adesso che non ne so. credo che. Però non si sa mai. Se poi ti faccio vedere quante persone sono collegate esattamente in questo momento. E il nostro ti dice una. Ecco, la mamma. Era. Esatto, oppure sono io dal No, telefono che ho fatto era prima la prova. Amleto di Sicilia Teatro con Sebastiano Minchia, Lo Monaco. porco Che cane. è. Sì, Porcocane, ma era una compagnia che fa. Proprio così. Se qualcuno. Una compagnia che fa un teatro, secondo me, morto. Però era a me, una volta che ti arriva un provino per una roba grossa, E why not? con 50 date non è il momento. Quando sarò più Ostia, quindi grande, cioè, ti magari. prendevano, ti portavano in giro per 50 Sì, date? ed è saltato così in 5 5 giorni. giorni. Io avevo messo 100 euro per andare a Roma, che mi avrebbero dovuto ridare. Poi non solo, ho avuto pure il Covid, quindi è saltato sia il viaggio, ma in generale poi sarebbero stati inutili. Madonna, ragazzi. Beh, questo è evidente che il problema fondamentale è che i produttori di teatro non siedono in Confindustria. Perché invece la Magneti Marelli, la No, sai Marcegaglia, qual è Il Vadita, tutto in a posto. realtà? Il problema è che. Chi è che chiama? No, sono i tuoi le tracce quando partono. Il problema è che in realtà i teatri, quelli nazionali, ma anche i teatri di lirica, per espandere un po', in realtà hanno interesse al fatto che non si riapra, perché loro in questo momento stanno ricevendo dei fondi, che però non hanno l'obbligo, i fondi che ricevono sempre annualmente, ma Sì. non devono produrre perché non c'è la situazione È per farlo. praticamente come la cassa integrazione. Sì. Cioè, c'è lo Stato che sta pagando, non voi come attori, ma i teatri. I teatri qui, ma non solo lo Stato. Che cazzo. Attenzione, qua invece ti si chiama perché sai, guarda, qualcuno ti ha sentito. No, in realtà mi sa che No, è la no, no. traccia. Cosa No, no. è Ah, La successo? Lingua Batte, un altro programma radio che stavo ascoltando mentre venivo. Cioè, non ascoltavi noi mentre venivi. No. Ah, guarda. Io in qualità di Giuliano Corradi dico Fischia, è inammissibile. giusto. Ma è No, giusto così. comunque, quello che succede, loro prendono dei fondi del FUS, Sì. il fondo unico per lo spettacolo, no? E che viene diviso in base a dei parametri. In un anno normale tu quei soldi li devi spendere in un certo modo. In un anno così hanno tolto l'obbligo di spenderli in un certo modo. Quindi che succede? Grossi teatri nazionali tendenzialmente, che magari hanno accumulato dei buchi di bilancio, Sì. invece che usare quei soldi per creare lavoro, per prendersi responsabilità lavorative, quei Stanno soldi li tappando il usano. buco. Esatto, e più sono grossi e più gli conviene. Cioè, molti teatri, La Scala non ha, per esempio, per dire un teatro gigante che è lirica, importante. Non è neanche teatro di proso. Loro non hanno parlato minimamente di una riapertura ultimamente, solo della questione in streaming, che li costa molto di meno anche come spesa dei... Certo. E anche quando hanno fatto l'apertura adesso, non hanno fatto lavorare gli orchestrali che stavano già lavorando alle prove della prima della Scala, ma hanno chiamato altra gente. Nuovo per avere il contratto più basso, certo. Questa è la situazione. Quindi in realtà i teatri, la risposta è i teatri, quelli più che hanno più potere politico, in realtà sono seduti nei posti giusti, e a livello economico, visto che non hanno alcun interesse culturale evidentemente, a livello economico a loro conviene questa cosa. Ho sbagliato di tutto, io pensavo che giustamente, andavo naif, pensavo che all'interno dei teatri ci fossero persone innamorate della cultura, invece no, come in ogni altro gruppo umano, all'interno di grossi gruppi economici o enti economici aziendali, c'è chi pensa al bene dell'azienda. Visto che stiamo facendo questo focus sul teatro. Esatto, vai. Cioè, il Piccolo di Milano, adesso è arrivato il nuovo direttore. Sì. Claudio Longhi. Claudio Longhi con tessera del PD. Tesserato. Sì, tesserato. Cos'è successo? Da quest'estate il direttore del Piccolo, Escobar, il direttore amministrativo, si era dimesso. Aveva dato le dimissioni. Okay. Tutta l'estate è andata avanti senza che il Piccolo riuscisse, il CDA del Piccolo riuscisse a decidere chi fosse il nuovo direttore artistico amministrativo, perché dentro ci sono la regione e il comune voleva uno del PD, certo, la regione voleva uno della Lega, e che succedeva? A turno facevano saltare il numero legale. Madonna. E il problema è che la discussione non è mai stata da un punto di vista di, appunto, il Piccolo in teoria è il teatro pubblico della città, dovrebbe essere il teatro di tutti, ma a livello di percezione, tu senti che il tuo luogo, il Piccolo, no, non ci sono andato a scuola quando ero bambino. È una delle robe che senti più esterna e più anche se non lo è, più privata di tutte, senti proprio che è una roba che non c'entra. Quando invece è nato invece come il teatro per tutti, con Grassi e Streller, che avevano un'idea del teatro che era il teatro per i cittadini e i cittadini per il teatro. Ma non c'è stato minimamente un discorso di culturale del peso che deve avere il teatro pubblico sulla città. C'è stato il discorso che c'era il nome tra i nomi un po' più grossi, chi voleva mettere il PD e chi voleva mettere la Lega. Chiaro, siamo un gioco di potere per l'ennesima volta sulle spalle della produzione culturale della città. Sì, e dell'anima della città. Comunque è bello parlare con te 5 minuti e prendersi ancora più male. Scoprire cose che non vorrebbe scoprire. Comunque, per chi non ci potesse vedere in questo momento, Tommaso Russo qui con me, tutto vestito in nero e a cavallo alle gambe. Stavo provando. E a cavallo alle gambe. È veramente, cioè, un attore. Fatto e finito, peccato la scarpa Decathlon. Ma con queste si lavora il teatro. Perché? Perché sono comode, costano 20 euro, costano poco, vabbè, 20 euro è poco, dai. E sono comode, sono completamente nere. Cioè c'era proprio il dress code. Da prova, la scarpa da prova. La scarpa da prove? Sì. Tutti uguali così? No, cioè... non tutti questi, però tendenzialmente una scarpa da ginnastica nera. Io prendo, io ormai vado lì, dico, voglio quelle lì. Quella, diretta, sì, sei anche da sullo scaffale, la prendi, saluti. No, adesso, visto che costa poco, l'hanno nascosta. No, che merda. Ma raga, ma va bene, come... ok. Cioè, ok scoprire che anche lo strano fa schifo, ma cazzo anche la Decathlon adesso. Sì, come lo zucchero nei supermercati. Comunque se metti le cuffie dovresti riuscire a sentire leggermente meglio, ma tu sei un attore. C'hai tu la vivi, fortissima. Tu la scena la vivi. Scusami, basso un po'. Ma volume. No, ma tieni l'alto, non è un problema. Ci mancherebbe. Tanto dico solo cagate, anche se sono cugino di me stesso, Giuliano Corradi. E va bene, Tommaso, ma... Non volevo. Per dirvi, il presidente del Teatro Stabile del Veneto, sempre per parlare di teatri pubblici, diciamolo. Tra l'altro, dico, io adesso andrò lì a lavorare col Teatro Stabile, quindi non so quanto mi conviene. Sai che se esce questo podcast tu sei finito, vero? No, vabbè, il Piccolo lo sanno tutti. Il Teatro Stabile del Veneto, dico solo che il presidente, a livello di esperienze teatrali, da curriculum, non ha tantissime cose. Quindi è la verità. Sul suo curriculum la cosa che viene, che è più forte, diciamo, è essere stato il portavoce del governatore della regione del Veneto degli ultimi 10 anni, Zaia. Madonna santa. Scusami, adesso magari è una domanda un po' personale, un po' provocatoria, un po' cattiva. Ma cosa cazzo ne capisci un leghista di teatro? Questo non lo so, però ci sono, incredibilmente esistono, anche io, perché uno pensa che... Gli uomini di cultura, in teoria, se sei un uomo di cultura, ma anche in un senso bello, non per forza intellettuale, in teoria dovresti fare un certo tipo di ragionamenti, no? Però per dirti, Sgarbi nel suo campo culturale ne sa. Sì, no, è vero, a Milano, esempio, cioè Sgarbi, poi sì, un altro. A Milano, uno dei più grandi organizzatori teatrali. Che ha portato in Italia, per dire, Cantor, Grotowski, Livinti, tutte delle esperienze teatrali che arrivavano da tutto il mondo era di CL. Pensa te. Sisto, il professore, Sisto Dalla Palma. Madonna santa. Quindi, però quella roba lì, secondo me, dipende anche un po' dalla questione di fede. Per cui tu, cioè, sei in quella congrega lì perché sei... Cioè, e, per esempio, io riesco a capire che attraverso la questione della fede, dell'approfondimento anche soltanto dei libri sacri, si sa che uno possa anche avere. è entrato qualcun altro in radio. Come a Sanremo, Prezzona Rossa. Esatto, questa è Prezzona Rossa ed è condotto dal cugino di Guglielmo Corradi, Gino Corradi, che fa solo cose intelligenti. Per cui abbiamo qui oggi con noi un teatrante. Oddio! È comparso anche un meccanismo di ozio automatico. Una birra. E quindi no, stavo dicendo che vabbè, talvolta magari tramite la fede uno può anche farsi una cultura e poi essere di cultura anche se aderisce a movimenti politici che a noi avversi in generale scabrosi e orrendi, però dai veramente, cioè, ho capito che anche Marinetti fu un futurista e poi era fascista, vabbè, ok, però ci sono esempi, sono proprio gente che spicca intorno a un panorama degradante. No? Ma il problema può essere che uno in quelle cose pensa che siano giuste, anche, cioè sa che in qualche modo pensa che sia giusto che ci sia una differenza perché sei nato in un posto e l'altro, è giusto che sia così, ma culturalmente riescono a fare dei discorsi importanti. Io non me la spiego sta cosa, devo dire la verità. Cioè non è che mi sono... gli uomini che ho incontrato io di teatro, perché poi purtroppo donne a livelli di istituzionali ce ne sono pochi, tendenzialmente sono sempre stati persone tendenzialmente legate alla sinistra e non credo che sia un caso, perché il teatro, essendo luogo dove ti incontri, dove c'è un certo tipo di rito, è un po' cioè mi faccio fatica a immaginarmi un leghista che abbia voglia di incontrarsi con gli altri, però lo fanno. Ma poi scusami, adesso esibisco la mia di ignoranza, anche se sono il cugino di Guglielmo che è molto più ignorante di me. Ma scusami, tipo Amleto è nero, Macbeth non c'è mica. Otello è nero. Otello è nero, scusami. Cioè, ma quante altre storie di teatro sono fatte da persone transessuali, gente che ha morali che si cambiano, eccetera. E poi tu ti avvicini come leghista, ce l'ho duro, l'ampolla nel po, la secessione. Ma sai che c'è un modo di farlo, perché c'è. Tu prendi tipo Shakespeare, no? Sì. Ci sono diversi modi in cui ti puoi approcciare. Uno in cui tu segui anche attorialmente, cioè proprio tecnicamente, ti dico, dove lavori ci sono storie. Sono partite altri podcast. È partita la saga del Re Muschi. Esatto, cazzo, ma potremmo fare la saga del Re Muschi ho recitato. Comunque puoi anche dire potremmo. Qualcosa, eh? Faccio social e arrivo. Bravo, fai social. Ciao Lorenzo. Ciao Zarossa. Ciao Radio ZM. No, è Prezzona Rossa. Esatto. È il pre. No, il salotto. Com'è questo? È il salotto di Zona Rossa. Quello con i borghesi. No. Quello per gli intellettuali. Quello per gli intellettuali, giusto. Intellettuali. Guarda già subito come soffia. Vengo da via 40, cretino. No, sei tu che sei venuto a Zona Rossa, attento. Eh? Sei tu che sei venuto a Zona Rossa. Sì, vabbè. E questo posto l'ho occupato io. Esatto. La prima notte. Comunque io ripeto la battuta che abbiamo fatto prima mentre giocavamo qui microfoni senza riuscire a ottenerne niente, che Tommy Russi l'abbiamo inventato noi, Lorenzo. Prima che facesse i libri, non so poi che i film, sia un merito, eccetera. Però tra l'altro ieri l'ho incontrato in piazza, mi ha detto domani ti chiamo, e ho detto no, ti chiamo io che siamo a Zona Rossa, invece si è palesato. Eh sì, cioè, è per obbligarti. No, mi sono palesato per chiedere un favore anche a Zam e Guglielmo. Esatto. Sanguisuga proprio. Ma giusto così noi ci ricordiamo sempre di quelli che sono nati qui dentro. A questo punto, più che una questione di tempi che altro, anche perché quest'altro ragazzo ha finito di fare social, finisce il salotto di Zona Rossa. Se vuoi sei un invitato, puoi rimanere qui a fare Zona Rossa con noi. Devi, assolutamente. Alla grande. E basta, quindi ti ho fatto un altro podcast da fare. Hai 13 no, minuti? Ma tienilo. Ah, così? Sì, diretto? Sì, lascia direttamente. Sì. Allora, niente, io faccio partire la sigla di Zona Rossa, così nel frattempo settiamo qualche cosina e ci siamo. Cazzo, tra l'altro, con una precisione spaccata. Ciao a tutti, ciao a tutte, partiamo. A tutte. Esatto, adesso mettiamo la solita sigla che è appena cambiata. Che è una bomba pazzesca. Sì, ma dove potete anche parlare mentre cerco... Puntata interamente dedicata al tema dell'ozio. Tommaso, rimani perché abbiamo delle domande anche per te. Sì. Tenete il telefono in caldo, fate finta che non siamo noi e rispondete dicendo chi è? Chi è? Per la prima volta in Zona Rossa anch'io avrò un telefono, potrò chiamare mia madre finalmente. Non è vero perché oggi ci ho discusso, quindi non verrà chiamata, stronza. E sta partendo la sigla? Non ancora. Ok, allora vado avanti. Puntata interamente dedicata all'ozio. Qui abbiamo dedicato un'intera chat che è durata una settimana su questo tema, in cui abbiamo coinvolto intellettuali, non intellettuali, gente di spicco, gente Jacopino, non di spicco. Jacopino Rinaldi. Esatto. Ringraziamo la nostra direttrice, nuova direttrice, che adesso Troveremo anche il modo di mandare i suoi audio, perché ci ha dato delle informazioni importantissime. È una presenza molto molto importante, che è con noi da poco, ma di cui sentivamo la necessità. Sì. Quindi Anita, ti ringraziamo tantissimo, a te anche, a Nils più o meno. C'era bisogno di una direttrice e noi ce l'abbiamo. Esatto, ringraziamo anche il nostro caro Francesco per la grafica che ci ha regalato oggi. Si dice, sento delle voci di corridoio, che stiamo copiando le ribelli. Allora, faremo un PS finale su questo tema. Non vogliamo dilungarci troppo perché non ci compete. No. Non è nello stile Zona Rossa. Perché la Zona Rossa è oltre. Però la sigla che stava cercando Guglielmo invece è puro stile Zona Rossa. Certo. Che potrebbe anche partire. Dimmi tu. Prego. Stai dicendo cose. Sigla! Nel frattempo è finita la sigla. E bentornati su Radio ZM Zona Rossa, puntata interamente dedicata all'ozio, perché così ci piace. Guglielmo, ti hanno mandato le musiche nuove? Allora no, perché purtroppo il ragazzo sta avendo dei problemi di salute, ai noi legati un po' al periodo. Però per c'è una playlist Zona Rossa nuova che possiamo, certo, iniziare a metterci come tappetino musicale. Sì. Ma nel frattempo, in fondo, fate Vobis delle cose che io cerco di fare il regista per una volta. Voi parlate di ozio, anche se sarebbe bello partire dalla nostra fantastica direttrice. Perché alla fine abbiamo la direttrice meravigliosa. Ma la stiamo chiamando? Dai. Eh no, non possiamo studiare. Ok, studiare. Allora sai cosa facciamo adesso? Vai. Chiamiamo tutta la chat Zona Rossa. Ma scusami, di gruppo. Bravo. Ma scusami un secondo, ma se io faccio una cosa molto molto stupida. Tu falla intanto. Cioè, se io faccio partire l'audio da qua si sente, no? Certo, assolutamente molto sì. Molto più facile di tutto. Allora, quindi a questo punto possiamo fare annunci in pompa magna. Noi abbiamo finalmente una redazione. La redazione si compone di Tommaso Russi, no? Olè! Non è vero. Puoi anche metterlo davanti alla bocca e parlare col microfono? Grazie. Figurati, no, perché magari eri già addormentato così che pensavi ai leghisti. E quindi abbiamo una redazione che si compone di Hank, Tommy Russi, Lorenzo, lo scemo che fa le cose, Guglielmo, ma soprattutto la direttrice chiarissima, illustrissima, più grande del mondo, dell'universo, Anita. Lorenzo. Già detto? Presentati, no. Ah, io mi presento. Hai detto anche Lorenzo, ha detto anche Lorenzo. Però io vorrei un rullo di tamburi per lo stagista, Cigo, che è sparito in, esatto, questi giorni, non si sente più. E per il nuovo adepto, che è veramente di sinistra, ma veramente fino in fondo, sinistra, è Francesco. Grazie Francesco. Lui sta già bevendo da 2 ore. Sì, per adattarsi un po' alla puntata, no? Per entrare. Noi abbiamo portato delle birre, non lo facciamo mai. Io non bevo una birra da 8 mesi. Ora foto e la dedichiamo al frasco. Esatto, esattamente. Perché l'ozio? Perché abbiamo. Cioè, ovviamente. Cioè, il fatto è che Lorenzo, Zona Rossa Lorenzo, è da sempre che ha Lorenzo, un argomento. Riccardo. Riccardo. Sì, certo, chiaro, Riccardo. C'è Riccardo, sì. No, vabbè, ma non spiccica parola neanche lui, a parte battute che fanno straridere, devo dire la verità. Quindi è cambiato. Una al mese, però fanno straridere. Ok. E la chat c'è da 2 settimane, sì, però una al mese. Però una al mese, va bene lo stesso. Noi vorrei fare ovviamente un appunto. No. Tu intanto traffica, sei in regia. Devo aspettare di far partire la nostra direttrice. Adesso la parte. Però intanto metti il tappeto sonoro della musica del nostro amico nuovo che ci ha gentilmente concesso questi brani fantastici. Mi raccomando, il livello dell'auto DJ è quello lì. Appena io vorrei fare una precisazione. Noi da quando abbiamo cominciato, ovvero l'8 marzo del 2019, che dedichiamo un tema ad ogni puntata. Quindi i voci di corridoio che si dice che noi stiamo copiando, che adesso iniziamo con questi format perché abbiamo visto che funziona. Non attacca, cioè è inutile che vi chiediate perché non ci ascolta nessuno, perché è così, basta. Cioè, non è che c'è perché facciamo male le cose, certo, dovuto, e copiando aumenteremo. No, non ci ascolterà sempre nessuno e noi andremo avanti. E saremo comunque più avanti, gli altri ci imiteranno, esatto, lo stesso. Esatto. Anzi, una cosa molto di sinistra. Tommaso è quel valore aggiunto, come dicono le aziende multinazionali, è quel valore aggiunto. Speriamo che sia anche il costo da tagliare a un certo punto. No, non è vero. No, perché quando mi dicono sei il valore aggiunto, io penso alle aziende, dico no, cazzo, il valore aggiunto. Un'altra volta. Ma il livello era questo, un po' più alto, non si sente niente. Un pochino, ci sei. Ora lo sentiamo. Eccolo là. Va bene. No, ci credo. Chi c'è? Mi è stato fatto un tondino dalla porta. No. Io lo faccio ai miei coinquilini, ci cascano sempre. Brava, complimenti. Salutiamo l'unica e sola voce di Radio ZM che copre l'80% dello share. Praticamente c'è, tutto il resto è chiara. Mentre la radio funziona così. Se dovessimo farlo a spicchi, appunto, come le aziende, esatto, noi siamo il valore aggiunto e poi c'è Chiara. E poi c'è Chiara, che è il core business, e anche il CEO e anche tutto il resto. Ma parliamo di altro. Buttati parliamo sul tema della puntata, Lorenzo. Mi butto sul tema della puntata perché abbiamo deciso di parlare di ozio perché le due persone che tengono questo programma evidentemente non sanno oziare e hanno bisogno di capire come si fa. Quindi noi andremo in giro, ovviamente telefonicamente, a chiedere a tutti e tutte la spiegazione secondo loro di cosa vuol dire oziare e qual è la forma perfetta del loro ozio. Così io e Guglielmo potremo prendere appunti e non sentirci delle merde quando abbiamo 10 minuti vuoti e non sappiamo come riempirli. Esatto, a questo punto potremmo essere garbati e chiedere a Tommaso Russi, special guest di oggi, un attore importantissimo, cosa ne pensa dell'ozio, ma non siamo garbati. E faremo partire la nostra Anita, che è la nostra direttrice, sperando che i nostri mezzi tecnici ci ascoltino, e facciamo partire questo audio dove Anita ci dice che cos'è l'ozio precisamente. Ozio. In genere, astensione dall'attività, dalle occupazioni utili per un periodo più o meno lungo anche abitualmente, per indole pigra o indolente. Consenso attenuato e più obiettivo, inattività, inoperosità, anche non voluta, per mancanza di un lavoro o perché costretti da altre cause. Con significati più vicini a quelli che il termine aveva in latino, dove ozium era il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, ovvero dai negozia, che poteva essere dedicato alle cure della casa, del potere oppure agli studi, per ozio si intende periodo di quiete, di riposo, più o meno prolungato e gradito, che interrompe le abituali fatiche. In particolare, al plurale, la vita spensierata e lussuosa consentita dall'agiatezza economica, e sempre al plurale, in usi letterari, l'abbandono a una vita molle, di agi e di piaceri. Cioè, è meraviglioso. La parte che mi ha toccato di più, ovviamente, è quella non voluta. Perché, nel senso, parliamoci chiaro, allora, non tutti e tutte hanno la fortuna di avere un lavoro, non tutti e tutte hanno la fortuna di avere compagni e compagne. Quando non sai cosa fare, effettivamente, non è proprio così semplice oziare. Ti annoi. Mi raccomando, diteci tutto quello che pensate alla chat di Telegram, Radio Zam, trattino basso, chat, perché vogliamo sapere, vogliamo capire come fare a rilassarci, perché io, Guglielmo, non ce la facciamo. Non ce la faremo. E tanto notiamo che mentre prima stavamo cazzeggiando allegramente con i microfoni, qualcuno ci ha scritto. Attenzione. Beh, diciamo che le ribelli di solito hanno problemi tecnici, ma sto giro le battete con Freccia Rossa Freccia Rossa. Madonna, Radio che Freccia. Idea! Che storia. Le idee vengono in diretta. È come Raccaglie, eh? Esatto. Quando c'era anche un altro. Che problemi tecnici avete avuto, scusate? Cazzeggiavamo con i microfoni e sbagliavamo. Allora, quindi... cazzeggiare con i microfoni non vuol dire avere problemi tecnici. Attenzione. Esatto. Perché sennò mi sarebbe squillato il telefono. E invece non è successo. Invece no. Era tutto voluto e intenzionale. Allora, io punto primo farei i complimenti alla voce della direttrice. Grazie voce. Grazie direttrice. Cioè, meraviglioso, no? Grazie Anita, scusaci, però non fantastico, ci possiamo fare niente, fantastico. È normale. Noi comunque ci siamo fatti leggere una serie di definizioni di ozio che gli ha dato purtroppo l'oziatore di professione, suo compagno, purtroppo. Quanto avremmo da imparare da quella persona? Quanto avremmo da imparare? Nils. Guarda, la gente ride a sentire il suo nome. Ne leggiamo una testa? Dai, leggiamo. Anche Tommy, però. No, però guarda che ci sono gli audio di Anita. Vuoi leggere, farle leggere da Anita? Ah, sono tutti. Sì, facciamo sentire questo. Sto male. Ozio è lo stato psicofisico che si prova dopo una teglia intera di parmigiana ad agosto. Io avevo capito un'altra cosa, pensavo fosse tipo il fratello della madre del padre, una roba del genere, tipo, non so se ho capito bene. C'è stato un momento in cui pensavo che Francesco fosse entrato hackerando la radio, invece era anche lui che mandava le registrazioni. Certo, ciao, certo. Francesco. Ma ce ne sono una serie, andiamo con la prossima definizione. Andiamo, così poi... Prima commentiamole. Perché secondo me, Nils, l'illuminazione Ozio sulle lasagne gli è venuta... lo stato psicofisico che si prova dopo una teglia intera di parmigiana ad agosto. Questo agosto è successo. Sì. È successo questo agosto... in cui agonizzava nei turni di lavoro massacranti, perché come sappiamo lo Stato italiano non vuole mettere soldi nella sanità. Maledetti! E il nostro caro Nils, essendo un, io rido, essendo un lavoratore della sanità, non avrà avuto un attimo di tempo, poi gli avranno preparato le lasagne e avrà visto le stelle. Avrà visto le stelle, davvero. Ci sono foto e video che testimoniano del suo oziare sul divano, comunque, ve le manderemo in chat. Svariate. Un commento, attore Tommaso Russi? Sulle lasagne d'agosto. Fa un po' caldo, non fate il bagno subito dopo. Non facciamo il bagno è attore. Semplice ma efficace. Semplice. Prossima definizione dalla direttrice di ozio. I più seri ci dicono che ozio è il contrario di negozio, quindi la negazione delle attività produttiva, tempo passato a non produrre profitto. Ecco, questa è una cosa che io, per esempio, devo mettermi in testa, perché nel mio non riuscire a oziare, se... assumessi questa cosa molto profondamente, sarebbe più facile, più semplice andare contro le attività produttive, smetterla di produrre per il capitale. Eppure nei momenti di ozio mi viene da fare, non da riposarmi e rilassarmi. Guarda che l'ozio, come giustamente diceva la direttrice nella prima definizione, deriva dal latino assenza dal lavoro, ma non vuol dire non fare niente. Quindi, cioè, se io studio filosofia, esatto, ma di lavoro faccio un moratore, sto oziando, perché non faccio il mio lavoro, non faccio attività produttiva, faccio attività speculativa, che è una cosa che magari interessa a me, che mi rende migliore come persona, ma non, certo, è retribuita. Quindi sbaglio io, sono renziano che pensa che l'ozio sia quella cosa dello stare sul divano. Dovresti rottamarti. Dovrei rottamarti. Secondo questa definizione voi state oziando. dicendo, ragazzi. Siete in realtà dei grandi oziatori. Siamo la grandissima. Fantastico. Abbiamo già vinto. Facciamo sentire un 5 altissimo. Oltre a essere degli speaker mancati, riusciamo. Esatto. Perché se ci pagassero per farlo, non saremmo qua. Negli speaker, che una volta abbiamo cercato di metterci gli spinotti nell'orecchio, ma non ne potevamo suono. L'inizio era così, speaker. Zona rossa, era così, nelle orecchie. Sì, sì, invece poi sentiva molto silenzio. Era molto triste. Ci andiamo avanti. Le orecchie di brutto. Prossima definizione. Ozio è stato cosciente di nulla facenza fisica, mentale, causato da mancanza di sbatti. Si apre una birra. E si apre una birra perché ci stiamo addentrando sempre più nell'ozio. Concordo. Concordo. Scusa, concordo. Mancanza di sbatti. Attore Tommaso Russo? Mi sono distratto, scusate. È normale. È entrato nel pieno di zona rossa. Adesso scaviamo una buca nel pavimento, ci mettiamo dentro un omino che ti suggerisce la battuta, così ti senti a teatro. Va bene così, allora? Facciamo così, dai. Quella era la pubblicità di proietti, mica... Poverino, che pure è morto, dai. Vabbè, poverino. Succede a tutti. Succede a tutti. Prima o poi. Tutte e tutte. Va bene, ora abbiamo... No, solo ai maschi. Le donne non muoiono mai, come mai. Idea. Ora abbiamo il vocale registrato da Francesco, nostro oziatore from Poste di Roma. Ma negozio non è già la negazione di ozio? È il contrario, se proprio. Quindi la gente si è inventato che doveva produrre per non oziare, perché non voleva più oziare, perché voleva i soldi. Io mi chiedo come questa persona non stia ancora governando il mondo. No, basta, adesso lo chiamiamo e lo copriamo di insulti, perché è veramente insopportabile. Sarà sicuramente alle poste. No, tanto adesso, allora, prima della trasmissione mi ha chiamato giustamente per fargli sapere, perché aveva bisogno di sapere una cosa che io non gli ho fatto sapere, e nemmeno adesso gli ho fatto sapere, e quindi niente, mi ha descritto cos'è la sua definizione di benessere. Sì. Oh, allora? Allora? Stai oziando? Discussione. Sto oziando, no, non stavo oziando. Ci stavi ascoltando, però. Non ci stavo ascoltando. Posso mentire? No. Devi mentire, sei su zona rossa. Madonna, allora, che odio. No. Non ci stavi ascoltando, abbiamo mandato la tua bellissima voce in diretta, dai messaggi di WhatsApp, pensa a te. Tu attento a quello che mandi, perché non si sa mai qua, Completamente ubriaco. No, veramente? Completamente, di già. 19:21, zona rossa, Francesco Briaco. Scriveteci cosa ne pensate alla chat di Telegram. Dopo un'ora e mezza di coda alle poste. Ma no, ma veramente, anche già le poste. Ma il mercoledì è il giorno delle poste, scusa. Sì, il mercoledì è il giorno delle spedizioni, quindi delle poste, che oggi erano particolarmente sofferenti e sperate, quindi ubriachetto così. Però voci di corridoio mi dicono che il calendario è già finito. Il calendario è finito. No, ne volevamo uno per la radio. Ne ho stampate poche, erano un po' fuori tempo massimo. Ma se volete fare una buona azione, aia, giusto adesso, proprio perché non stavo oziando, vuoi un bonifico? Ho messo sul sito la stampa digitale Benefit ACAD. Oh, bellissimo. Quindi potete ordinarla e digitale, nei sì, e ce la stampiamo noi. Ottimo. Già mi vedo il calendario a gennaio affisso su. Lui ozia, ma ha un cuore d'oro. Esatto, sì, assolutamente. Sì. Lui è generoso. No, prossimamente sarà disponibile anche la stampa serigrafica, che costerà ovviamente di più, e la maglietta. Quindi. La maglietta, oddio, madonna, sto sudando. Ma non potremmo fare come le trasmissioni radiofoniche serie, cioè che quando chiamiamo la gente dice andateci la maglietta, e noi gli mandiamo la maglietta fatta da sto besugo che sta alle poste. Tu parli la maglietta di zona rossa? Chiaro. A sto giro non si regala niente, bisogna comprarla per sostenere ACAD. Bravo. E quindi però aspetta, noi stiamo parlando di ozio. Tu stavi oziando e ti stavi ubriacando a fare schifo. Adesso però mi torni subito in negozio per cercare di vendermi la maglietta. Corretto, giusto, comprensibile, legittimo. Negozio, come prima dicevamo, negazione dell'ozio. Ci sta, ma quindi alla fine la gente, tu dici, si annoiava a morte, si è inventato un lavoro apposta per uscire da questa condizione di noia mortale. No, la storia vuole che Zero Talcare è troppo impegnato, quindi hanno chiamato me. È vero, Francesco, grazie mille, continua a seguirci, ci sentiremo più avanti durante la puntata. Questa è una minaccia. Ah, ciao, okay, Francesco. Non risponderò. Bravo, non rispondere. Ciao Fra, ci sentiamo dopo per quell'altra storia lì, vero? Sì, dai, più tardi. Sì. Ciao caro. Vedo degli occhi, vedo qualcuno che si sta addentrando. Mi è avvicinato. Ciao. Attenzione, Guglielmo butta giù tutto. Direttamente Ciao. Dalla palestra di Zama, i giovani promettenti levi dalla box. Sicuramente ti deve chiedere qualcosa. Di botte. C'è uno scambio di chiavi, Tommaso. Intratteniamo il pubblico. Il numerosissimo pubblico. Zona rossa. Dici, Tommaso, dici. Che zona rossa è il nome anche di tutto un movimento che è nato per i lavoratori dello spettacolo dal centro al sud Italia. In vostra contemporanea. Vedi, cioè, ci plagiano così. Tutti ci vogliono, tutti ci cercano. Conte ci plagia, questi lavoratori e lavoratrici ci plagia. Ah, giusto, per zona rossa è nato. È incredibile. Allora, ad onore del vero bisogna ammettere che dovremmo mandare un po' di musica. Cosa dite? Possiamo provare a mandare un po' di musica. Io non ho portato Akira a sto giro per il dispiacere di tutti e tutte, mi dispiace, ma Allora, il turno di Guglielmo in questo caso. Contrattacchiamo. E mettiamo naturalmente l'unica musica che può andare al pari passo con Akira, e vi beccate un bel pezzo che viene dalla colonna sonora di Tenet, giusto per farvi venire l'ansia. Così. Niente, Guglielmo ha scoperto Tenet. Basta, non ne sono ancora uscito. Adesso vi veniamo a prendere. All'indietro nel tempo, però. Esatto. A tra poco. Grazie Christopher. Grazie, grazie, grazie Chris. Poi ti rispondo alla mail che mi hai mandato l'altro giorno sul parere che mi hai chiesto. Non ti preoccupare. Scusa, scusa, sono un po' impegnato. C'è un Christopher Nolan che è un regista di qualcos'altro. Tu davvero? No. Ecco. E che film fa? Non lo so, però so che esiste, che l'hanno scambiato per... Ma io se fossi lui andrei all'anagrafe e farei un cambio nome così. Beh, Christopher e Christopher. Pinuccio Nolan. No. Salutiamo anche il fratello, che spesso e volentieri fanno film insieme. Dobbiamo ricordarla sta cosa. Ci sono molti film codiretti da entrambi. Insomnia è uno di questi che vi consiglio tantissimo. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Radio ZM Zona Rossa, puntata sull'ozio. Ricordatevi, come fanno in molti e molte, la chat di Telegram interessantissima, Radio ZAM_chat. C'è arrivato un messaggio che leggiamo dopo, però. Scusa, stavo distraendo già male, molto male. È giusto che ti distrai, perché è una puntata sull'ozio. Esatto. Le birre, infatti, vale sono tutto, per quello. Vale, non abbiamo mai bevuto una birra in zona rossa. Mai. Ma è straight edge, praticamente con le X sulle mani. Stiamo andando a chiamare la persona che più di ogni altra sta oziando l'universo del mondo conosciuto del movimento. E infatti ci fa schifo. Maledetto Dave, rispondici. Ogni tanto vedo delle foto che mi fa male il cuore. Schifoso, maledetto. Brutto, infame. Copriamolo di insulti. Campione. Allora, bentornato in radio. Un'altra ospitata in radio, sorpresa. Ma c'è un motivo questa volta. C'è un motivo molto importante, Dave. Bello. Tu solo ci puoi spiegare questo argomento. Tu, in realtà, la nostra direttrice di Zona Rossa, ne ho assunta, ne ho costituita subito. Anita ci ha illuminato la via, ma dacci tu la tua definizione di ozio. Ozio? Sì. Ma dedicarmi al mio piacere ricreativo, in qualsiasi senso mi possa far piacere, leggere, non lo so. Leggere? Cioè, so che c'è una grande dibattito, però di ozio, sono troppo analfabeta per darvi una risposta esaustiva. A me piace comunque dedicare il tempo a me stesso, diciamo. Quello, e lo fai di solito alle Canarie, no? Dov'è che lo fai tu? Dove lo fai tu? Io adesso ho appena finito di pescare. Ma veramente? Maledetto! E questo come lo giudichi? Ozio o attività? Cosa? Questa era è un'attività produttiva o un ozio per te? Andare a pescare mentre noi siamo qua che ci congeliamo vivi? Tu stai a casa, leggere i libri belli, guardare i film belli, mangiare le cose buone. Ok. Tipo, non è proprio ozio. Va bene, interessante. L'attore Tommaso Russi vuole dirci qualcosa? C'è qui con noi un attore, Dave. Sì. Se il pesce te lo mangi, non è ozio. No. E tu è pesca sportiva o è pesca così riflessiva? No, in realtà li ho ributtati in acqua. Allora è un amico della natura lui. Vuole il posto a cenere, non vuole che rialzi il volume. Poi li mangio senza problemi, ma okay. I miei sono ovviamente un ipocrita che fa fatica. Però a parte le cose d'esempio che vanno benissimo, ma raccontaci per te che cos'è l'ozio perfetto. L'ozio perfetto. Sì, il tuo ozio tipo. Ma guarda, non è troppo lontano da quello che sto facendo ora. Ecco perché ti abbiamo chiamato. Schifoso, maledetto. Ecco perché ti abbiamo chiamato. Ma un'altra domanda, quanto cazzo dura il tuo ozio? Quando è che torni, allora? Ma io sono in smart working balneare, finché dura. Basta, lo vediamo a settembre del 2021 sicuramente. Cioè, ma raga, allora, finché non mi licenziano, io resto qua. Ma è questa la cosa, la gente tipo comunque sta pagando per stare lì a oziare. Vabbè, ma perché tanto io, cioè, che lavoro da casa in parco, che lavoro qui, che cazzo, cioè, non cambia niente. Vero anche questo, tutto verissimo. Non salutarla perché non esiste. Non esiste, scusaci, Dave, è entrata un'altra persona. Vuole essere citata, indicata. È entrata un'altra persona in studio, ma noi la ignoreremo perché così si merita. Persona senza sesso, non vogliamo neanche dire il sesso. Esatto. Persona. Va bene, Dave, sei stato lapidario nel tuo sconfiggerci e nel tuo farci ambire a essere come te. Maledetto, te lo diciamo. E se ti vengono i brufoli sul culo, sai di chi ha la colpa. Noi poche volte sentiamo il sentimento dell'invidia, ma quando lo sentiamo, lo sentiamo. Ragazzi, prossimo arrivato. Zona Rossa a casa di Dave in smart working. Prendiamo l'aereo, ragazzi. Attenzione, il prossimo livello è quello. Attenzione, veniamo a prendere. A casa di Dave. Esatto, a casa di Dave. Madonna, ma questo è proprio l'attore. È l'attore. Come è l'attore. Improvvisa lui? È l'attore Tommaso Russi. Grazie. Va bene, Dave, grazie mille. Puoi tornare al tuo ozio. Ciao, buona pesca. Ma perché ore sono che lui va a pescare alle 19.36, raga? Ma lì... Ma è un'ora in meno qua. Ah, ok. 6.36. Ma c'è luce ancora? Cosa al sole sì, sto calando adesso. Mamma mia, che sogno. Sto godendo un tramonto sul lungomare. Che sogno. Maledetto, maledettissimo. Una vita da sogno. Una vita da sogno. Dai, ciao Dave. Dai, a presto. Ciao, ciao Dave. Caro. Ciao. Va bene, va bene. Qualcuno vuole leggere? Beh, abbiamo qui un attore. Attore Tomasolo, si vuole leggere una sua amica. C'è scritto su Telegram. Ci arrivano dei messaggi alla chat di Telegram. Come potete immaginare, devo dire anche chi è? No, dopo. È così, recitala. Recitala come se fossi lei. È una lei, questo possiamo dirlo. Come potete immaginare, è un tema che mi sta a cuore. Secondo me, pensare a mente serena, senza limiti di libertà per poter immaginare, speculare, riflettere, ma senza un fine produttivo, per il gusto e il piacere di prendersi del tempo per sé, è godere del tempo senza avere l'ansia che scorra. Bacini a tutti! Ma raga, ma ero uguale! Era veramente, era come averla qua. Ciao Marti, spero ti sia piaciuta l'interpretazione di Tommaso Russi, che penso che abbia già la statuetta in mano ormai. Ma guarda, ma io, ragazzi, io se stavo girato mi sembrava di avere Martina dietro di me. È stato incredibile, Presidenta, grazie per questo messaggio. Presidenta. Mi raccomando, usate la chat di Telegram, perché a questo giro avete anche l'interpretazione dell'interpretatore. Abbiamo anche, sì, chi ci può interpretare le cose. Ma se questa persona... sta facendo? Questa persona... Questo oggetto che si muove... No, vabbè. Ah, ma tanto sai che forse lei non ci può rispondere. Buonasera a tutte e a tutti. Ah. Oggi è il 16 dicembre del 2020 e sono esattamente le... Che non ci vedo. 19.38 e siamo in onda. Madonna, ragazzi, grazie, Sveva. Vabbè, ho capito cosa devo fare io. Metti in viva voce. Insomma, appunto, ancora meglio. Dai, velocissima, cos'è l'ozio, Leila? L'ozio? Sì. Esatto, cos'è l'ozio? Così, a gamba tesa. L'ozio è un obiettivo di vita. Ragazzi, non vorrei fare del facilitazismo, ma questa è mezza palestinese, metà napoletana. Dai, dai, stiamo parlando, dai. Scusa, Leila, non dai volevo. Dai, ciao. Richiamaci. Ciao, presto. Ciao. Ma ragazzi, ma voi avete mai sentito che a 105 gli chiudono il telefono in faccia? Ma a lezione alle 7.40 di sera. È palesemente una scusa, Guglielmo. Ah, dici? Ma certo. È come alle poste. Esatto. Sveva, attenzione. Se non parli al microfono non ti si sente. Rubalo a Tommaso. Buonasera a tutte e a tutti. Vi ho appena salutati. E salutate. Comunque, se potessi dare un'opinione riguardo alla definizione di ozio. Puoi, assolutamente. Da quel che so, l'ozio in antichità, nell'antica Grecia, era il momento di svago, tra virgolette, che però non rappresentava quello che ad oggi rappresenta, cioè un momento di inattività in cui non si fa niente. La gozzoviglia. Esattamente, cioè il chillare. Ad oggi viene chiamato modernamente definito chillare. Esatto, sì, il termine deriva dall'inglese chill, che vuol dire tranquillo, no? Uh-huh. Tipo ciao chill. Pesce. Esatto, grazie, grande pesce. Ciao Jerry. Ciao Jerry. Dopo chiamiamo Jerry. Vai, ci sta. Jerry, raga, comunque raga. Niente. Però per origine l'oziare era il fare sì attività al di fuori della scuola, dello studio e tutto il resto, ma in realtà fare attività costruttive, da quel che so io, in cui si imparava, che so, io non lo so nello specifico dello storico, però immagino a fare attività al di fuori delle materie, esatto. Dovevamo nascere in Grecia, scelte, un po' di anni fa. Saremmo stati dei grandi oziatori. Sì, esatto. Sì. E invece Sveva, per te che cos'è l'ozio? Cioè, aspetta, la domanda è: qual è la forma più perfetta dell'ozio per te? Ormai sei dentro. È una domanda molto difficile. È un peccato che non la possiate vedere, perché c'è tutta anche una gestualità. È sempre un peccato che non possiate vedere, ma è la radio. Ci dispiace. Questa roba primitiva. Ma che, qual è la mia idea di ozio? Perfetta. Cioè, tu domani hai la giornata libera e decidi di oziare nel modo Perfetto, perché è tipo 3 mesi che non fai altro che lavorare. Domani è la tua giornata libera, cosa fai? Ok, allora. Allora, punto primo. No, punto primo, se davvero avessi la possibilità per l'ozio andrei in un posto diverso dalla città. Sì, sì, escludi la pandemia, escludi tutto. Ok, allora escludiamo tutto. Bianca. Per me l'ozio è andare al mare. Oh! Passare, sì, andare al mare, brava, proprio fisso. Bene. Passare tipo tutta la giornata lì con cibo che mi porto dietro, tutto. Ottimo. Il resto, qualcosa... con cui chillare, certo. Non so come dire, materiali in più. Non siamo in fascia protetta, puoi parlare. Quindi, nel senso, fumare canne. Attenzione! Dottore, venga a prelevare qua la signorina. Esatto. Che roba razzista canne. Che faccio sempre la voce del sud per fare un poliziotto. Vergognati. Picchiatemi male, raga. Uno dei soliti stereotipi, vergognati comunque. Terribile. Andiamo a prendere la ragazza. Esattamente. Dottore, venga! E poi, boh, cioè, mi fumo due B e mi fumo due B. Scusa, che è attore Tommaso Russo. E mi bevo tre canne. E sei già a posto. A posto, grazie. Ma cosa hai fatto prima? Vabbè, comunque, sì. No, grazie per il tuo contributo, Sveva. Meno grazie male a che voi. Sveva è entrata dicendo: io non parlo. Sì. Adesso praticamente si stacca il microfono dalla mano, c'ha tipo scocciato al polso. Adesso si avvicina per ridere al microfono. Bravissimo. Solo per farti sentire come ride. E tanto sta facendo 130 km in un metro e mezzo. Cioè, va avanti, indietro. È vero. Noi sottolineiamo il fatto che abbiamo tutta questa quantità di chilometri in radio, perché manteniamo sempre le distanze. Comunque, certo. Comunque va bene, il programma è fitto, le persone da chiamare sono molte, si passa avanti, attenzione, ci scrivono di nuovo. Carissimo, devi leggere anche questa, devi citarla, però dopo la telefonata. Ah, Amleta, grandi. Sì, cioè abbiamo ignorato per un attimo la chat. Sono dei grandi compagni. Chi ci segue con sé? No. Mattia! Ciao Matteo, oh. Benvenuto su Zona Rossa Radio ZM, sei in direttissima. Ma che, veramente? Certo. Veramente. Siete dei balordi, siete. E Madonna. Su quello non ci piove. Siamo anche di peggio, ma non si può dire per radio. Va bene, grandi ragazzi, come va? A posto? Ma dai, come fa il brillante subito, come sei, sei ripreso? Mi avete praticamente svegliato, me l'ho appena messo sul divano, mi stavo per abbioccare. Eccolo! Sei già sul pezzo! Ma noi siamo il programma del destino. Siete i soliti di questa testa, insomma, ma lo dovevo aspettare da Guglielmo. Però tu sei già avanti, perché tu sei una persona avanti, lungimirante, e hai anticipato il tema della puntata che ti spiegherà Tommaso. Vai Tommy. L'ozio. Sì, Clemente, Tommy. Tommy, ok, Mattia, l'ozio... Cos'è l'ozio? Cos'è per te? Come si concretizza nella tua vita l'ozio? Qua c'è, cos'è? Perfetto, cosa? La forma l'ozio? Perfetta dell'ozio. La tua forma perfetta di ozio. Come ozi? Come mi piace oziare, sì. Oddio, sì, Madonna, sì, non, raga. Non come ti piace chiamare lo zio. Che poi si traduce qual è il mio hobby che faccio quando ozio, praticamente. No, tipo... allora, con calma, Mattia. Allora, punto primo, in realtà io vorrei puntualizzare che noi ti abbiamo chiamato mentre stavi oziando e il tema della puntata era oziare. Cioè, ragazzi, sei avanti, è verissimo. Punto secondo, seconda puntualizzazione, ricordati che questa trasmissione verrà seguita anche da Barcellona, e non dico altro. Detto questo, la questione qual è? Lui capisce. Prossima canzone di quindi la questione è una bellissima città che ci sta in Spagna, appunto, fine, stop. Detto questo, la questione è allora, l'ozio non è soltanto il mio hobby. L'ozio è il modo in cui mi posso ricreare oltre l'attività produttiva, oppure l'ozio è l'alternativa all'attività produttiva, oppure l'ozio è il luogo dove creo me stesso per davvero, perché nell'attività lavorativa invece mi consumo. Quindi, cioè, non è che è soltanto l'hobby. Tu che sei una persona di profondità umana. Io guarda, bravo, scava. Io sono un pazzo cinefilo, quindi quando ozio ti piacciono solito, i cani in quel senso lì? Cerco di arricchire il mio bagaglio di cinema. Ok. Possibile? Può essere una risposta? Vabbè, ci sta, ma è la tua opinione, cioè non è che... Ah, non c'è una risposta sbagliata. No, è la tua che ci devi dire cosa non preferisci vinco niente, di più. Quindi? Ma se vuoi uno spintone te lo possiamo tirare, non so, una testata nei denti. Un bastardo. Lo so. Qui in realtà qualcuno ha fabulato per 10 minuti alle nostre spalle, cosa sta succedendo, non si è capito. Comunque, no, dai, raccontaci veramente per te cos'è l'ozio, cioè tu scrivi tanto. E tanti, allora, tu scrivi, qual è allora la condizione dello scrivere l'ozio, com'è? Allora, partiamo da un piccolo presupposto. Io vengo da una formazione classica, per cui ho subito molto questa roba del... tutta la filosofia classica sul tempo, l'ozio, eccetera, e la cosa mi ha mandato in sbattimento per anni, continuo a farlo. In che senso? Nel senso che sono un po' sempre paura di perdere tempo, di non avere tempo a sufficienza, e quindi parlare di ozio, diciamo che mi mette un po' così, cioè, mi mette un po' in difficoltà. Ti manda in sbattimento. Perché... sì, hanno un po' di sbattimento, anche se poi in realtà per alcuni filosofi classici l'ozio non era per forza una perdita di tempo. Esatto. Niente, oddio, mi sono incartato in una cosa complicata. Ma stavi andando benissimo. Siamo qui con te per continuare la discussione. Allora cioè, fatemi articolare una frase di senso, cioè un concetto che abbia un senso, per non passare per il solito coglione, come al solito. Dipende da te questo, però, mica da noi. No, lo so, io so, mi sono respira no. E vai. E raccontaci. Allora, diciamo che, ecco, potrebbe avere un senso. Diciamo che mi piace oziare facendo in modo che, appunto, che sia una cosa non riproduttiva in senso non produttiva in senso materiale, ma che magari mi lasci mi arricchisca in senso un po', cazzo ne so, un po' spirituale, intellettuale, esperienziale. Stavo per dire intellettuale, ma non volevo passare per uno sborone di merda, però vabbè, diciamo. Pure che, modesto, ragazzi, ma diciamo che il concetto potrebbe essere quello. Sì, esatto. Beh, io leggo tanto, per esempio, cioè, io scrivo perché leggo, banalmente, per cui mi piace cercare, sfoglio robe, ecco, magari anche a caso, foglie, libri di poesia a caso. No, sì, perché poi tra l'altro i libri di poesia che io leggo tanto, cioè non è che sono, non hai, è che letto la Gluck, la Gluck, il premio Nobel. Cosa? Non ho sentito. Niente, era un'incursione. La Gluck, premio Nobel a ottobre, questa qua non conosceva nessuno, poetessa. Non mai sentita prima. È un consiglio che ti è arrivato in diretta. Guarda, a me mi hanno appena regalato un libro di Sylvia Plath, che è una poetessa americana morta suicida a 30 anni. La conosciamo. Bello, che allegria, figa. Mattia, giuro, aveva, tra l'altro, me l'hanno regalato per il mio 31esimo compleanno. E che è successo? È sparito. Mattia. No, è bruttissima così, Mattia. Cioè, eppure la telefonata è ancora su. Mattia non ti sentiamo più. E buttiamo giù e richiamiamo. Hai iniziato a oziare. Hai iniziato a oziare. Potremmo. L'abbiamo un po' citato. Sì, un attimo, però è stato bello, Mattia. Sì. Adesso lo richiamiamo subito. Arriva. Adesso, ti abbiamo perso. Ti abbiamo perso. Ora ti sentiamo. Sentiamo bene. Sì, vai, sì. Dicevi. Ok. No, stavo dicendo che mi hanno regalato appunto questo libro di questa poetessa americana, Sylvia Plath, me l'hanno regalato per il mio 31esimo compleanno, tra l'altro lei è morta suicida a 31 anni, e quindi la cosa mi ha messo un nostro. Auguri! Comunque no, è molto bello, la consiglio un sacco come poetessa. Mattia, per riprendere un po' i binari e per provare a tirare le fila, ti faccio una domanda. Se tu domani avessi la giornata libera, completamente libera, cosa faresti? Allora, beh, completamente libera, probabilmente cercherei un'occupazione, dato che al momento sono disoccupato. No, questo non è se ce l'avessi libera. Poi sono in mezzo a un trasloco, per cui probabilmente se fosse completamente libera, nel senso che se avessi già un'occupazione, ma sarei in ferie, e se avessi già traslocato, probabilmente mi guarderei un paio di film che ho in arretrato e vogliamo i titoli, vogliamo i titoli. Basta che non sia Tenet, i titoli. Che qui... sì, aspetta, come si chiama quel regista, quello di The Lobster? Lantimos. Bravissimi, ecco, mi guarderei un paio di film di quel regista. Bravo. Lo conosco. Bravo, guarda Kinodontas. Esatto, mi hanno detto di guardare quello e altri due o tre, una roba su un fauno e La Favorita, io non li ho visti. La Favorita, carino, però io ti consiglio di iniziare con Kinodontas, passare poi a il Sacrificio del Cervo sacro, credo si chiami così. E poi per arrivare alla Favorita, che è un po' più delicato, diciamo. Dai, ecco, probabilmente... Però Kinodontas poi manda un messaggio, ce l'hai Telegram? Mattia? C'è un timer. Cos'è? Mattia? È successo? Mattia, non ti sentiamo più. Presidente? Presidente? Cos'è? Presidente? qui si fanno citazioni importanti. Guarda, Lorenzo sta per esplodere le risate, attenzione, si salta in aria. È colpa di Tommaso. Colpa di Tommaso, colpa di Tommaso. Mi sentite? Ora sì, ho capito, ma cosa stai facendo con sto telefono? Sembro io gli esordi. Non lo so, raga, cioè, il mio telefono funziona, siete voi che avete... Lo scaldotto. Cioè, esatto. Da dei tecnici come voi non me l'aspettavo. Ascolta, tecnici, lo dice qualcun altro, perché qua problemi sempre. Detto questo, cioè, adesso i miei soci stanno ridendo come dei pazzi, ma la questione è che chiunque sta ascoltando a quest'ora è cortesemente pregato di non pasticciare che comandi. Adesso lo diciamo la seconda volta, la terza volta che cade la linea. E che cos'è? Vabbè, comunque stavamo parlando di Lantimos. Sì, vai. Ecco, niente, io probabilmente se avessi il giorno completamente libero e fossi... No, quello si è sentito tutto. Non dovessi pensare a trovarmi un lavoro e a traslocare, probabilmente mi farei una carrellata di Lantimos e poi... E poi eroina, so, perché immagino che sia un regista di una simpatia, di un'allegria... Scroccherei una canna d'erba dalla mia coinquilina, probabilmente. Ma lei, vabbè, vai. E dato che io non reggo un cazzo, morirei collassato sul letto. Siamo in due, Mattia. Ti capisco benissimo. Tutto ozio. Cioè, io purtroppo dopo i 30 anni non ci ho capito un cazzo. Non faccio due tiri. Non, ma sai non, che ti facevo molto più giovane? Raga, lo so, me li porto bene. Te ne davo 26-27 neanche, sai? Ma invece sei del 90. Continua a pensarlo che va bene. Sei 89? 89, esatto. Il codice fiscale era... Vabbè, stiamo facendo amicizia, non lo vedo mai, scusa. Esatto, ma... D'altronde... E poi da intellettuali, uno regge... Basta parlare di quanto sono vecchio. Ma però, no, ma stai calmo, stai sereno, stai tranquillo, non ti preoccupare, va tutto bene, ci sono qua. Detto questo, cioè, ci sono a confronto due importanti menti della sinistra milanese, cioè due persone che facevano... A te piace Burroughs, Mattia? Come? Dici di più. Raga? Sì, siamo qua. Ci senti? Sì. Ok, sì, dicevamo, certo. Di Burroughs, dacci un'opinione in due minuti, perché stai parlando da 150 ore. Di chi? Di Burroughs. Che Burroughs? William Burroughs. Hai mai visto il pasto nudo di Cronenberg? No. Ok, allora niente, non arrivo. Allora ci riproveremo. Allora, settimana prossima, tu compito della prossima settimana, mercoledì prossimo ti riverremo a cercare, Mattia. Ti riverremo a prendere. Vabbè, e tu ti devi guardare. Compito a casa, ti guardi? Il pasto nudo. Mangiare. Però non è di Lantimos, David Cronenberg. Non mi starate facendo vedere qualcosa di zozzo, vero? Ma se ti facesse schifo, ho capito. Ma cioè, cosa sta censura? Da voi non me l'aspetterei. Definiscici mai. Zozzo. Esatto. Dai, va bene, il pasto nudo di Cronenberg, dai, ci sta. E ovviamente i tre di Lantimos che abbiamo citato prima. Dai, 130 ore di film. Non avrà mai un giorno libero, non potrà farlo. Ma fa niente, non glielo faremo pesare. Ma adesso ho la scusa per oziare un po'. Bravo. Intanto noi ti troviamo al lavoro. Se hai bisogno di traslocare, ti serve una mano, chiama Guglielmo. Il lavoro cos'è? Venire a pulire le zam, tipo. Perché no? È sempre un lavoro che è quello. Gulli, se mi paghi io vengo. Ma come, che cosa devo pagare? Guarda, già tanto che vabbè, va, lasciamo perdere. Dai. Va bene, carissimo, ti salutiamo con grazie, un pochino Mattia. Di rete. Aspetta, ci eravamo lasciati prima che si interrompesse. Attenzione. La seconda volta. Sì. Ti avevo chiesto, ce l'hai Telegram? Sì. Sì, ce l'ho a Telegram. Tu potresti scrivere alla radio live, sì, lo sai questo? Sì. Ti rispondiamo noi. È una figata. Non so. C'è una chat che se tu la cerchi nel cerca di Telegram, radio zam_chat, e ci trovi. E puoi scrivere tutto quello che vuoi. Insulti. No, quando ti annoi. Raga, vi prego, siete rovinati. La sera prima di andare a dormire, non sai cosa scrivere, non sai dove metterti gli appunti, esatto. Mandala su quella chat. Lo fa anche Riccardo. Sì, maledetto. Confermiamo. Maledetto. Ma che figata. Vero? E adesso, cioè, quando poi vedrai i film, magari un parere, quando li vedi, se ti piacciono. Non è ti verrà voglia di dopo Kinodontas ti verrà voglia di scrivere. Dai, righe. Se fai bravo ti aggiungiamo anche qualche programma casaccio, dai. Va bene. Dai, scrivici. Ciao carissimo. Ciao belli. Allora io faccio una cosa terribile adesso, Guglielmo, cioè, sono stufo di sentire le nostre voci, mettete la musica. Vai, esatto. Yo, tell them dance, man. The heathen, them always at this. Yeah. Oh. But they can't stop the progress. No way. The most danger is great. Sizzler. Sight them up here, they bow down low, move. alone, you say that. That this me bongo all me know home. We are the bed that in a them house. We are the bed that them wanna place them all. I lay that ball. My place is sexy girl. Them come sweat at, get wet at. Challenge me on the fire. Well, red at boy. Say them this, say them that. Them a crap, them grab, them flap, yow. Shout out, make them know them not. Cause I'm keep stepping it. So last year I keep blessing it. I'm resting it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Boy. Hypocrites and parasites. You for know them. Yeah, yeah, yeah, yeah. Skin them, teeth them, no real. How about bite to them? How them all go try to stop this? No way. We are gonna see them more and more hits. Oh, well. From Jah he's with you. The pagan can't stab you. No time. Most high blessing it, last is the best in it. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Food keep blessing it. Well, judgment, they're getting it. Oh, they're getting it. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Boy, I and I keep stepping it. I see, I keep blessing it, the best in it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Some pagan testing it. Now, judgment, they're getting it. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. The great one bless it. Where the rhythm team me carry this far. 4,000 years, me have won Babylon with this, yeah. Me kill a million beats and push me near and far with this, yeah. Hear me now, no. Oh, well, hey. How them I go try to stop this? Oh, well. The heathen, them always are this. Oh, Lord. So for them out there, them the real. Calmi ragazzi, c'è un eco della Madonna. Siamo questo è il reggae. Zona rossa con questo reggae è veramente ozio. Sì, sì, sì, sì, davvero. Devo dire che ci stiamo addentrando in pieno in quello che è il tema della puntata. Va bene, adesso abbiamo la prossima telefonata. Mentre dal reggae passiamo tipo al metal pesante. Ecco, fare il pro in regia è anche questo. Esatto. Potremmo anche fare in modo che tu utilizzi il tuo telefono a fare chiamate. E cioè, anche abbassare la levetta di sinistra dell'altra traccia, sì, che sta per arrivare. Va bene. Adesso chiamiamo una vera professionista dell'ozio. Poi tocca un numero che ho io in rubrica, quindi userò per la prima volta il mio telefono. Però per adesso no. Ancora è Guglielmo a chiamare. Prima o poi, Guglielmo, Tommaso, regalaci una SIM e uno smartphone per la radio. Pieno di soldi. Ciao Rachele. Ciao Rachele. Ciao Rachele. Ciao, ciao, siamo in radio, sei bentornata diretta su Zona Rossa, come ai vecchi tempi. No, ti avevo minacciato che ti chiamavo. Questo è il trailer, cioè, esatto. 10 secondi no. Sono il trailer. Sì, è vero. Grazie Rachele, sei l'essenza di Zona Stavo Rossa. Stavo guardando il report. Che cosa fai? Stavo guardando il report. Stavo guardando il report. Puoi mettere in pausa, esatto, giusto? Eh sì, perché mi infatti l'ho messo in pausa. L'hai messo in pausa, perfetto. Grazie. Ci dedicherai questi lunghissimi 44 minuti. Esatto. Qui analizzeremo tutte le versioni, tutte le traduzioni possibili della parola ozio in 55 lingue diverse. Certo, lo sai, scusate, qual è il tema della puntata di oggi, vero? No. Ma come no? Non sei iscritta al nostro bellissimo canale Telegram. L'ozio, l'ozio. L'ho Madonna! L'ho istruita bene. Come hai fatto? Ieri a cena mi hanno invitato lei e quell'ignobile del suo compagno Riccardo e gli ho chiesto un po' di ozio perché Rachele di ozio ne sa a pacchi. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Vai, disponici qual è la tua teoria dell'ozio, Rachele, quella che mi raccontavi ieri sera a cena, che è legata molto a quanto tempo dedicheresti tu all'attività lavorativa. che lavora con i bambini. Cosa devo dire? Nella mia esperienza io funziono meglio con una grande buona dose di ozio e una piccola dose di lavoro. Ah, è un autonomo. Per lo meno retribuito. Ci capiamo. E, sto meglio fisicamente, sto meglio a livello relazionale e noto che chi ha tanto tempo libero è anche più piacevole. C'è da frequentare, quindi è una cosa che riconosci anche negli altri, nelle altre persone. Esattamente. Okay. Ma quindi la domanda su cui poi noi indirizziamo è, per esempio, se tu domani avessi la giornata libera, cosa faresti per rilassarti il più possibile? Per oziare. Oddio. Quindi ho una lista di libri infinita. Leggere. Ho l'argilla a casa da utilizzare. Ok. Tanto l'argilla che dovrebbe essere utilizzata anche a Zam. Adesso non lo dico perché io sono un amico dell'ozio, però si è fatto uno stampo. Tossire in tempi così non va. Stampo bene. In creta. Se qualcuno è interessato mi presto volentieri, ma non penso, perlomeno non è ancora successo che qualcuno mi dicesse: ah, io vorrei imparare, sono interessato. Vabbè, uno parla al centro, via, va. Poi c'è la per buona maglia. Lavora a maglia, ah, cioè, questo mi ricordo che erano le prime telefonate con Rachele che lo stava facendo. Stava imparando. Quindi Zona Rossa può confermare, ne ha le prove, audio. Esatto. E poi, boh, cucino, disegno, rompo le scatole a Riccardo. Attività nobilissima e corretta. Tra l'altro. Fa parte dell'ozio. Sì. E se proprio ho bisogno di rigenerazione, mi sdraio a terra e basta, faccio la morta. Questo l'ho visto fare anche a Guglielmo. Sì, comunque, sì. E devo dire, vero, vero, tutto vero. In realtà, io so perfettamente che tu convivi, ai noi, ai te, ai tutto, con un'ignobile persona che anch'essa non è capace a oziare, da quello che mi ricordo, da quello che so. Sì. Nei momenti del non far niente, lui si trova qualcosa da fare pur di fare qualcosa, perché star fermi non se ne parla. Però appunto in questo caso abbiamo il primo esempio che secondo me è molto interessante, in cui mi ci rivedo per esempio molto, che non viene interpretato come l'ozio una cosa di stare sul divano, perché quello a noi ci fa male, a noi mi tiro in mezzo dentro anche io, stare sul divano a guardare un punto vuoto, a non far niente, appunto a rilassarsi, ma ci viene più, è più positivo, fa più good vibes e ci fa stare meglio il fare qualcosa a prescindere comunque. Ma io tutti. So che si è capito se era una domanda, meno. Era uno spunto. Non si capiva la domanda di Lorenzo. Scusaci, Rachele, scusaci. Era uno spuntino. No, sì, è che è la prima volta, è la prima risposta così. Io so che l'ozio, nel vero senso della parola, è inteso proprio come il far nulla. Io ogni tanto mi ci ritrovo a non far nulla, però normalmente diciamo che includo nell'ozio anche tutte le attività rigenerative più a contatto, non so, dell'artigianato piuttosto che di cultura. Secondo me è interessante all'interno della riflessione sull'ozio dividere questa questione sul fare e non fare tra l'attività ricreativa, non nel senso di mi diverto, cioè perché noi parliamo di ricreazione perché veniamo dalle scuole elementari, dalla creazione nel momento in cui ti diventavi, no, la creazione secondo un bellissimo manifesto della lotta sul lavoro inglesi, la recreation è quando tu ricrei quello che ti rende umano. Wow. Per cui rapporti umani, leggi libri, studi, approfondisci, vai in giro eccetera, e poi c'è il riposo. Cioè, è un'altra cosa, cioè, riposo e dormo. Questa e dormo, sto bene. La racconterò. Bravo, bravo, ricordate, l'ho raccontata io. E qui ci sono le prove. Diciamolo. E secondo me, in Rachele, come ce lo stai esponendo, emerge bene questa cosa: la ricreazione di sé divisa dal riposo. Perché non sta parlando di dormire, sta parlando di non faccio un cazzo. Sta dicendo no, faccio questo, quello, quell'altro. Ci sono le attività che mi sciolgono il cervello, giusto? Sì, forse sì, forse c'è un altro dato che unisce i due, cioè la ricerca del benessere, no? Per cui la ricerca del benessere nel fare o non fare le cose. Potrei non essere totalmente d'accordo, ma mi limito poi, perché poi adesso abbiamo inventato questa cosa, Rachele, che a fine puntata, per finalmente, anche noi rispondiamo alle domande che facciamo alla gente. Cazzo, è vero. La settimana scorsa è venuto molto divertente e adesso anche noi faremo ci faremo la domanda solo a fine puntata per ammorbare il numero 0 che comparirà sul seguito da 00010.000. Sì, quindi magari se ascolti noi al posto di Report, come penso che sia giusto fare. Report. Grazie, attore Tommaso Russi, grazie. Erano 6 ore che provavo questa battuta. Grazie. E va bene, Rachele. Allora, noi sappiamo che quell'ignobile del tuo compagno è sparso in giro da qualche parte a Milano con un sacco di pane e non sa cosa fare. Mi piace il sta pane, girando intorno in una piazzola anche di sosta. A me piace. Esatto, perché è andato a ritirare del cibo e boh, ti interessava questa informazione? Magari no. Non te ne fregava niente. Cosa ne pensi? Del pane? Sì, del fatto che Riccardo è lì sparso che va a prendere pane dalla gente. Ma inizialmente il mio solito pensiero mi è giunto alla testa. Cioè, sì, ma che cavolo, ancora un'altra volta, dai. Cioè, basta. Siamo stati insieme tutto il giorno, potevamo almeno passare la cena assieme, no? Invece, dai, presto per cenare. In mezzo alle palle. Sono le 20.07. Condivido questa cosa anch'io. Anche a me è stato fatto mobbing a casa. Ah, esci anche stasera? Era Davide. Sì, ma non ci sei mai. Dolcissimo, Davide, ti amo anch'io. Torno subito. Dolcissimo, no, io ho apprezzato. Mi ha una macchietta. Una persona, come dire, possessiva. Ma no, ma va. Poi no, in ma realtà figurati. Poi mi sono detta, questo qua è il pensiero che mi è giunto alla mente. Poi siccome ho appena fatto un corso di comunicazione non violenta, che tra l'altro vi suggerisco perché vi cambia mi iscrivo domani. Esatto. Mi sono detta, no, ho bisogno di autoempatia e quindi adesso sto oziando in questo modo. Cos'è l'autoempatia? Scusami, Rachele, però non ti sfondiamo più le ovaie con la noia. Cos'è l'autoempatia? L'autoempatia? Sì, cioè quella che hai appena citato tu. Di se stessi. Ah, ok. Ho fatto questo corso di comunicazione non violenta. Sì? Che praticamente ha due filoni. Okay. Ok, uno è l'empatia e l'altro è l'autoempatia. Cioè, queste due macro aree di interesse e di azione non si riesce ad avere una comunicazione appunto non violenta. E ho scoperto che nell'autoempatia e anche nell'empatia, quindi nell'andare a ricercare e a riconoscere i sentimenti e i bisogni dell'altra persona e di te stesso, ho scoperto dei sentimenti che io non sapevo praticamente, che non conoscevo, perché adesso vi sfido, ditemi almeno 14 sentimenti. Porca troia, ragazzi. Iniziamo. Vai. Possiamo farne una testa, siamo in tre. Vai. Vai. Sì. Vai. Rabbia. Paura. Frustrazione. Amore. Precarietà. Gelosia. Precarietà è un'emozione. Sì, precarietà cazzo. Non è un sentimento. Cazzo. Sei il sentimento della precarietà, ragazzi. E tu come ma ci sta senti? Mangiando vivo. Sicurezza, scusami. Io dico io lo chiamo precarietà. Vabbè, ne ha inventato uno, Tommaso Russi può. Va bene, quindi io ero gelosia. Gelosia, quindi siamo già abbiamo fatto un giro e siamo a 3, Rachele 5, conta. 6, io devo iniziare il settimo. Conto. Io sono a 7, adesso gli faccio 7 palline. Il settimo di Gulli. Settimo il mio, io dico di sicurezza, io dico timore. Io dico gioia. Invidia. Felicità, che non è sinonimo di gioia. Siamo a siamo a 10. Vai. Oh, ce ne mancano 4, raga. Ero 4. Invidia? Invidia l'hai già l'ho detto. Già io. L'hai già detto tu? Ma dai, Tommy. Lo so che cioè, attore Tommaso Russi, scusami. In scena quest'uomo è scusami, l'amarezza, no, la malinconia. Vai, andiamo avanti. Vai. La saudade come si traduce in italiano? Non me lo ricordo, non è però c'è una traduzione. È nostalgia. Nostalgia, bravissimo. Ma vale, è diverso da no, dissenso non è un'emozione. Beh, scusami, il rancore. Rancore, ragazzi, sono fatto al 90% di rancore. Ira. Siamo a 14. Ciao Rachele, ciao. Complimenti. C'era un tempo? No, ah, no, okay. No. Pensavo che adesso fossimo persone empatiche. I sentimenti ce ne sono tipo migliaia. Ah, sì, e noi sì, ne conosciamo veramente pochissimi e soprattutto usiamo sempre gli stessi. Ho letto un articolo di recente che ne contava 6.000, tipo. Sì. Poi magari dico una cazzata. Non so, se non mi ricordo la lista. Io non so il numero totale, però so che quelli che utilizzo io sono molto pochi. Quelli che riconosco io sono molto pochi. Esatto, perché ecco. Utilizzo quello che riconosco. Per non parlare dei bisogni, Minchia. Quelli, ciao. Io non iniziamo a fare l'eco. Va bene, allora, questa è Zona Rossa, il programma che diventa intelligente anche quando non lo pensi e non ci credi. E invece, grazie, Rachele. Ma ci hai dato delle cose molto intelligenti. Grazie, grazie, grazie. Va bene, noi dopo di te metteremo della musica reggae. Puoi e basta. Tornare a Report, Rachele. Grazie mille, Rachele. Report. A Report? Esatto. Si dice Report. Oh, lo dice lui, lo dice così. A parte... Guarda, ci ha preso gusto, rimane al telefono con noi. Esatto, vedi? Ma stai con noi ancora un po', Rachele. Possiamo usare anche l'altro telefono. Senti, sono trascurato da Riccardo. Cazzo! Zona Rossa diventa mamma terapeutico. Mia, mamma mia! Vuoi raccontarci solo qua? Zona Rossa. Quando è stata l'ultima volta che pensi che Riccardo sia stato sincero con te? No, dai, non esageriamo, non esageriamo. Mi costate addirittura molto meno del mio psicologo, pensa. Questo, guarda, è un complimentone, veramente. Sono molto emozionato, Rachele, grazie, perché secondo me questo ha significato il fatto che per te è una zona sicura. Ma raga, aspetta, fermi tutti. Ma... Esatto, esatto. Attenzione. Non si dice sicura perché è brutto. Ci arrivano messaggi grandi. Vedi perché abbiamo Tommaso Rossi attore. Tommaso Rossi attore è fantastico. È un tuo amico, Tommy? No. Ah, ok. No. Comunque, il valore aggiunto di Tommaso Rossi. Ma sentite, ma se vi propongo questa cosa, settimana prossima puntata natalizia e se ci parla e se parlassimo di emozioni e chiamiamo tutti. Madonna, quanti, dici un'emozione. Dici un'emozione, gli chiediamo quella che vuoi. E se ce l'hanno già detta, no, un'altra. Perché appunto mettiamo in difficoltà le persone e facciamo vedere prima o poi un'emozione diversa. Non so se la redazione di Zona Rossa. Ma chi vuole anche l'aneddoto? Sì, ci vabbè, sta. Cioè, l'aneddoto ci viene da sé. Viene mi da sono sé. Sentito disgustato quando. Esatto. Disgusting. Esatto, quindi descrivi l'emozione e poi contestualizzala un momento. Io scrivo sull'agenda di Zona Rossa, come potete sentire qua. Sull'agenda scrivo. Che schizzo, Guglielmo, incredibile. Traia, sono fortissimo. Questa è fortissima. Sono veramente bravissimo. Hai sentito il rumore dei fogli? No, se la faccio qua non si sente. No, altrimenti non puoi sentire che c'è una questione tecnologica. Lo sentirai nel podcast. Nel podcast sarà molto evidente. Esatto. Comunque, Rachele, grazie. Grazie mille. Perché non solo devo ascoltarvi adesso, ma devo anche ascoltare il podcast. Brava, brava. Allora. Doppio. Allora. Mi piace che hai usato il verbo dovere. Però... Che genio. Però il problema è che in questi giorni questo è un questo è un po' momento pubblicità, però informo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che in questi giorni Archive è crashato e quindi non riusciamo a caricare i podcast, ma arriveranno e saranno conditi da Riccardo meglio dei soliti post perché speciali, perché è in ritardo. Esatto. Più del ritardo solito. Esatto. Quindi ci scusiamo con tutto. Però avrete dovrete riascoltare il podcast sì. Perché ormai Zona Rossa è questo. Però non ti preoccupare, abbiamo inventato un tornello. Ripetente, torni indietro nel tempo e poi puoi rivivere i momenti con te. Easy. Facciamo proprio facile, non c'è problema. C'è un mio amico che ha fatto un film a riguardo e era tutto liscio. Ma era l'Antimos. Va bene, Rachele, ti liberiamo dalla nostra presenza. Dove siete adesso? Cosa? Che reggae mettete? Non lo so, prova a dirci un titolo, dai, vediamo se lo peschiamo. Dice una canzone. No, io non lo so. Proponiamoglieli noi. Di Musical Foundation. Dei? Chi? Del mio amicissimo Matteo. Cos'è? Aspetta, amicissimo Matteo. No, ripetici un attimo il titolo della canzone. Con lo spelling. No. Rutical, scritto Rotical. Foundation. Domani è in cima alle classifiche. Infatti, allora con calma adesso noi dobbiamo andare a pescare nel nostro Rice, va bene. Allora, come sentite, io sto scrivendo sul nostro database dei dischi in vinile. Sì, sì. Dove andare? Lo stagista sta andando a prenderlo. Sì, certo, solo che la nostra biblioteca di vinili praticamente è grossa come il Quebec. Per cui c'è un attimino di tempo, cioè ci vuole un attimino a trovare il. Quindi potete dire qualcosa invece di guardare il telefono così, Lo stagista. Attore Tommaso Rossi, intrattenga. Grazie. Tommaso? Sì. Con noi c'è Tommaso, è incredibile. Eh sì, lo presentiamo. Non fargli i complimenti in diretta. Ti può rispondere. Sono proprio emozionata a vederlo in pieno schermo in Piazza Fontana ieri. E te l'ho detto che è stato un successo. Scusa, no, parlavo con Tommaso, parla. È stata la grande Claudia Cipriani, che è la regista. Che è pure umile, è pure umile. Che ha trovato un modo per raccontare una storia pubblica in modo che non è retorico e che è molto intimo. E io... sono molto contento di aver fatto parte di quel progetto. Ieri è stato bellissimo, tra l'altro, vedere tutta quella gente con quel freddo in Piazza Fontana. Io allora ne approfitto di questo momento per fare pubblicità a Pino, Vita accidentale di un anarchico. Bravo! Bravo, bravo, fai bene. Che è stato nelle sale di Milano al Messico per un sacco di tempo, nonostante il Covid, e che appena finirà il Covid inizierà una tournée molto probabilmente in camper in giro per l'Italia, ma se volete potete trovarlo anche su Vimeo. E a proposito di questo, io le figlie di Pinelli le ho incontrate, ma ho avuto un timore reverenziale nel presentarmi, perché Claudia Pinelli ha una faccia abbastanza ostile. Io avevo appena visto, eravamo all'Arcibellezza, la prima del film documentario, così, non me la sono sentita di andare lì a salutarla, pirla io. Vabbè, pirla, perché, scusa, vivi di emozioni, come tutti noi, tutte e tutto noi. Come tutti noi. Sì, esatto. c'è da dire che non avevi nemmeno un ruolo così comodo. Rachele, ma quanto sei fortunata, ieri hai visto un film in cui c'era il protagonista che ti ritrovi in radio il giorno dopo. Infatti, che figata, cioè interessante. Mi no? sento grata di questa cosa. Gratitudine, siamo qui 16, esatto. Mica, ci hai lanciato un tema della puntata prossima che devi farla con noi, per forza. Sì, ho rifornato la programmazione, pensa un po'. No, ti attacchi Gizzi, ti colleghi e fai la quarta, perché ci sarà anche Tommaso, ovviamente. Ormai. Allora, se c'è Tommaso va bene, ci sono. Ma come? Ma scusa. Guglielmo, va bene. Che cazzo? Va bene, se compri un giocatore. Sei mese a dirmi minchiate in radio per poi essere scaricato per un Tommaso Russo attore qualsiasi. Ma guarda che TR7 è quel valore. Non ci credo che l'ha detto. Basta, chiudete tutto. Ciao Rachele, è stato bellissimo. Ciao. Io nel podcast metto un rumore bianco dopo questa battuta. Esatto. Ma per un'ora e mezza, tipo. No. Rachele, ti salutiamo. Ciao, Ne. Sei stata spunti di riflessione, grazie. Ciao, bello. Ciao, Rache. Ciao. Io alzerei leggermente la traccia. Vai, stiamo zitti. Basta. 2 minuti. We'll be right back. non potete capire il livello di altissimo intellettuale che ha toccato questa trasmissione a microfoni spenti, ovviamente. Io invece sto trovando convertitori PDF, ma va bene, questa è un'altra storia. La traccia, che mi sì, no, quella lì sì, ma allora quella traccia lì tu sei andato a cercarla, certo, tra i vinili, i convertitori, esatto. Il convertitore per il PDF, invece volevo un DocX per OCS, che è un altro formato molto interessante. Detto questo, mi sa che devi fare il cambio di telefono. Devo fare il cambio di telefono e sfondo una barriera, ovvero vado a chiamare quello che è un collega di Sky. Attenzione. Però aspetta, momento. È la prima volta in 8 mesi di trasmissione che non è il mio telefono che fa le chiamate. Finalmente qualcuno se ne è accorto. È un momento storico. Anche secondo me, sono d'accordo. Nello sono studio d'accordo. 3 di Piazzale Abbiate Grasso. Sì, sì, sì, studio 3. Studio 3. Attenzione, beh, già non iniziamo bene. Ascolta, ascolta, ascolta. Ho imparato 5 minuti prima di radio. Ecco, bravo. Esatto. 3, 4. Oh, prendiamolo morbido, raga. Attenzione. Assolutamente. Io sto zitto perché sto impazzendo qua. Come? Ma perché devi star zitto? Dobbiamo parlarci. Squilla, squilla. Dai. Vuol dire che il mio telefono funziona. Sì, è vero. Quante volte? Magari in turno. Ma effettivamente no, sarebbe fighissimo se mi rispondesse da lì. Ma scusami, cioè, tu non lo sai quando è in turno lui? No, perché cambiano talmente di frequente. Il problema del capitalismo. Gli avevo accennato che forse, però basta. Direi che è più che sufficiente. Però apprezzo l'impegno, ci ho provato. Bravo, ma rimani attaccato. Ti fornisco il prossimo numero, a meno che tu non ce l'abbia già in mente. Perché dovevi andare da lei. Allora aspetta. Chi? Da lei. Tu pretendi che io veda Phil lì? Ma figa. Comprali sti occhiali, cazzo. Ce li ho qua di fianco. È una delle redattrici delle Ribelli. Avevamo detto anche questo. Andiamo avanti. Parte il dissing. Un pochino sì. Che sbattiti fai, Gulli, ogni volta a cercare i numeri? Minchia. Vero o no? Che palle. Poi pensa, io ci vedo, tu non ci vedi. Pensa a te, infatti. Ce l'ho fatta, l'ho trovato. La seconda telefonata del mio nuovo telefono. Speriamo vada a buon fine. Intanto capiremo se abbiamo il servizio di richiamata, quindi se Michele ci richiama mentre siamo in telefonata, forse ce la faremo. Tommy, ti paghiamo a fare per che cosa? Parla. Hai ragione. Qui, se poteste vedere, vedreste Lorenzo come vostro padre quando cerca di leggere il giornale. Molto vero, molto ad vero. Ad allontanare, avvicinare, molto ma vero. Fingere di non avere alcun problema. E mettili sti occhiali, ma con la mascherina si appannano tutti. Ma raga, non ci risponde solo. Vuoi vedere chi sarà? No. Risponde la segreteria telefonica. È incredibile. Allora è zona rossa. A questo punto comunque vorrei far notare che forse non sono io, perché c'era qualche malalingua che affermava che ero io il problema. Per cui lo sapevo che veniva fuori in sta cosa. Invece no. Diciamo. Prova a chiamare col privato. Chiamo Gioia, così chiamo direttamente casa mia, perché Davide mi ha detto che è impegnato con sua madre. Io chiamo Gioia. Ciao Davide. Vai. No, non può rispondere perché sta parlando al telefono con sua mamma. Chiamiamo Gioia che ci risponderà sicuramente. No, stava facendo anche la cosa lì su Zoom. Lei, che palle. Ma sempre, perché, sempre la lezione all'università delle poste. Chiamiamo Rico Danza. Dai, richiamo. Sicuro si diverte. Qua nel frattempo il nostro Telegram sta esplodendo. La gente ci scrive. Ma perché non avete. Che tracce avete messo? Mettete i Rutical Foundation. Sì, arriviamo, Rachele. Arriviamo anche da te. Il vinile era lontano. Lo stiamo pulendo. No, Tommaso ci soffia sopra. Chiama anche lo stagista. Ci ha messo giù. Chiama lo stagista giù. Così al volo. Lo stagista. Se no, chiamiamo Misuri 4. Poi bisogna chiamare lui, eh? Dovrebbe essere chi lui? È lui. Ora non ci vede. Ora sì. Ma la tua scrittura. Vabbè, allora dammi l'analfabeta. Allora sono l'analfabeta. Il nostro dottore. Si sta facendo una fatica, ragazzi. Mi si sta dividendo il cervello in tre pezzi. Pronto? Cioè, ti rendi conto che sto chiamando io dalla radio? Dove cazzo sei? Infatti, hai sentito che c'era la voce quella elegante, perché la chiamata era dal buon Pica. Cioè, il mio telefono mai funzionato, Cigo. Ho preso un telefono nuovo, fiammante. Infatti, ne sono molto contento. Sai che sembra il nome di un'arma il nome del telefono? Si chiama M31. Minchia! Mamma mia! Non me la sparare in faccia. Sì, ma calmo. Ascolta, ma lo stagista ascolta le puntate quando non può venire? Ci ascolta o... In realtà ho appena finito di cenare, di sparecchiare. Però bene o male sai sul tema della puntata che cos'è? Assolutamente sì. Vai, dici. Che è l'ozio. Esatto. Madonna, se sei forte. Grazie perché abbiamo il tuo sostituto. Esatto. Che è un attore affermato, al posto tuo che non sei niente. Attore se Tommaso Rosso. Sei uno stagista. E che appunto è sorpreso del fatto che tu sappia che cos'è il tema, capito? In malafede, certo, sono in malafede. Ha detto certo che lo so. Quindi ti chiediamo, buon Cigo, che cos'è per te la forma perfetta dell'ozio? Allora, la forma perfetta per me è di ozio? In questo momento. Ok. Che tradotto, allora, per aiutarti, vuoi un aiuto o vuoi andare così? No, parte? Perché io lo devo vedere come l'ozio, quello greco. No, o latino, latino. Sta fissa della roba greca latina ce l'abbiamo tutti. Su di te, una cosa su abbiamo te. Capito al liceo. Su quella che è la tua esperienza, e quindi la domanda tradotta per rimettersi sui binari è: cosa faresti se domani avessi il giorno libero? E arrivi da una situazione in cui hai bisogno di rilassarti. Cos'è per te oziare? Quindi dire oggi non faccio che cosa e faccio che cosa? Divano, assolutamente. Che secondo me il mobile più comodo della casa. Anche certo più la del letto. Scrivania non l'avevo messa. No, più del letto in quel senso. Ah, in quel senso. Io sono più comodo sul divano, sì. Quindi proprio divano. Dei cuscinoni, quelli grossi. Che piacere. Copertina. Possibilmente di quella con le maniche. Madonna, rock and roll. Cazzo. Filmetto e un teino caldo con una goccia di miele. Madonna. Io a questo punto voglio anche il filmetto. Io voglio i gatti sulle gambe o sulla pancia. Adesso che sono arrivati avrei anche i gatti sulle gambe. Questa è l'immagine per me molto angosciosa in realtà, perché la penso come Heidegger. Che cazzo vuol dire sta frase? Ma cos'è? Allora, adesso io metto giù la telefonata con Cigo e metto giù l'esistenza anche di Lorenzo. Lo spegniamo. È bello che a me il tastino rosso. Mi ha guardato, ma come lui non sa. L'ha fatto apposta per poi potersi vantare che io non sapevo cos'era la risposta. Lo stiamo prendendo a capuddate. Mamma mia, veramente. Stiamo arrivando al livello di maglia di queste. Madonna, sì, ci arrivati. Non riesco più a parlare. Tu stai facendo una brutta macchina. Veramente terrificante. Sono più risate. Senti come ride. L'aveva qui. Cigo, per cortesia, adesso vai velocissimo. Sei lo stagista. Vai a cercare Heidegger. Inizia a cercare Heidegger su Wikipedia. Apri e preparati a una dissertazione filosofica con Lorenzo. Che non è costringere, ma smettere di ridere con dei pugni in bocca. Non ci siamo più. È partito, ragazzi. È un remake. La puntata fa caldo. Cioè, vai al telefono. Già fa. Silenzio, parla Lorenzo. No, non ce la fa, non ho capito. No, è che Gumbagna è che si sente poco comunque al telefono. E nel casino non ho sentito bene. Devo ascoltare il podcast. Esatto. Devo andare ad ascoltare il podcast. Esatto. No, in realtà è interessante. Il tuo racconto mi ricorda proprio la domenica pomeriggio. Sì. Capito. Testo di Heidegger. Quelli fondante. Poi quando faremo i programmi seri vi spiegherò la citazione. Sì, perché io chiaramente non l'ho colta da buon ignorante. Ma non è una questione di ignorare o meno, era per far ridere, semplicemente. Siamo riusciti. No, non ignorante nel senso che ignoro, nel senso proprio di ignorante. Ignorante. Quindi che ignora. Ignorante. Va bene, sì, stavamo parlando però di ozio, giusto? Esatto, sì. Il tuo ozio? Quindi no. Vai. È quella, appunto, è la descrizione di quella domenica pomeriggio idilliaca. Potremmo dire che a questo punto viene il sospetto che in realtà all'interno del tuo corpo alberghi un novantenne. Un novantenne in elevato stato di decomposizione, probabilmente, dato che il tuo soprannome è Chiaramente sì. Ah, ok. Chiaramente sì. Cioè, in realtà io sono un vecchio gattaro di 86 anni. Ah, sei un gattaro proprio? Sì, perché io se devo oziare da solo, al massimo con dei gatti che si gestiscono più o meno da soli. E al massimo ci vengono a fare due coccole e poi se ne vanno. Cigo. Ah, anche loro non stanno molto addosso. Guglielmo è un boomer e non ha Instagram. E non segue le tue bellissime storie con i gatti che hanno preso a casa Cigo. Sono stupendi. Sono uno più bello dell'altro. E sono due patati. Oggi uno dei due è arrivato ai chilo di peso. Mamma mia. Poi hanno un gioco bellissimo che vorrei anche io in versione umana. Che è questo triangolo di legno con intorno una specie di foro dove ci gira dentro una palla e loro non riescono a tirarla fuori perché è incastrata. Esatto, ci sono le due palline da ping pong che girano. Questi hanno il gioco tutto il tempo, cioè interessantissimo. Comunque da Telegram ci propongono di aprire una nuova rubrica, la rubrica di Cigo. Attenzione Cigo, c'è un messaggio per te. Incursione! Non era Facebook, era Telegram. Che spessore. La rubrica di Cigo? Hai conosciuto una volta nella tua vita. Mi ha detto cose brutte di te, Cigo. Racconta per favore ai nostri spettatori, che ora sono 172.000, sì, ok? Telespettatori, però. Sì, sì, sì, sì, proprio quello. Racconta cosa mi hai fatto l'altra sera contro il mio consenso. Oh my god, oh my god. Nego accuse tutto. Nega tutto. Accuse pesanti, accuse non c'ero, e se c'ero dormivo. Coi gatti e la copertina con le maniche e il tè con la goccia di miele. Al posto dei re magi, i gatti. Mi verrebbe voglia di venire ad andare a casa sua e sulle sue tazze, non quelle dei suoi genitori, che sono persone responsabili e intelligenti, non c'entrano niente, ma sulle tue ti metterei un piccolo buco sul fondo della tazza, in modo che quando metti da 10 ma tutto. Soprattutto il gesto era... Maledetto. E ti senti già ubriaco poi. Esatto. Ma com'è possibile abbia bevuto tutto questo tè? Va bene, caro. Sei veramente uno stagista. Sì, sei inutile. Ci vediamo domani alle 7:30. E poi ti tiri in modo. Ci vediamo domani mattina alle 7. Ah, giusto, perché tra l'altro si parlava di se domani dovessi oziare, ma domani non posso oziare. Talvolta capita anche di lavorare, carissimo, sai com'è? Già, sai ogni tanto, sì. Però, ogni tanto. Senza esagerare. Qua nel frattempo le cose non funzionano, adesso tra poco spacco il manico del computer, ma va bene lo stesso. Va bene, grazie Cigo. Grazie a voi. Un altro intervento. C'è un altro saluto. Buonasera a tutte e tutti. Vorrei dire che è arrivata la pizza. Attenzione, è arrivata la pizza. Momenti importanti, ma come l'hai ordinato la pizza? No. Ah, perfetto, grazie. Il momento più gioioso serale. È stata acquistata per il compleanno di una persona. Oh. E quindi se volete una fetta possiamo averla. Dai, possiamo averla. Vi ho ma è interessante. Vi ho grazie, ma quindi grazie. Faccio tre fette, va bene? Io ma scendiamo a prenderla, mandiamo un brano adesso che chiudiamo qui con la nostra carogna preferita e andiamo a prendere la cosa. No, così non si può fare. Così ho fatto un errore madornale proprio. Hai capito se cosa ti perdi? Questo, hai capito? Allora, io adesso vorrei mandare la canzone che prima ci ha chiesto la carissima Rachele, che giustamente perché dobbiamo, cioè è una persona che ci ha sopportato e supportato. Ma sta guardando il report. No, ci ha scritto sempre su Telegram, ricordiamoci che per scrivere a Telegram bisogna scrivere, cosa bisogna scrivere, Lorenzo? Alla chat di Telegram, che la potete cercare proprio nel cerca, Radio Zam, _ chat. Ma proprio come se piovesse, come se piovesse. Comunque è stato bello che tipo non abbiamo nemmeno salutato Cigo. Abbiamo chiuso in faccia. No, ci sta. Severi ma giusti. Ci arrivano messaggi se abbiamo... Io sono qua, raga, ma allora, sveglia. Nel frattempo, ragazzi, io aspetto i microfoni. Cioè, ci sono delle cose stranissime. Stavo lanciando il brano. Il podcast che fa Guglielmo veramente sono croccantissimi. Sono veramente... croccantissimi. Come l'acqua del Naviglio. Metto un compressore così forte a volte che... Esatto, non ce la fa. Sto bloccando un martello pneumatico. Sono i dati che vengono pressati dentro. Chissà proprio. Come mai il podcast ricorda le persone che lo fanno. Chissà. Va bene, ma grazie Cigo, mandiamo sta musica e poi io chiamerei anche le persone che ci hanno chiesto di essere richiamate. Fantastico. O che si chiedono se era zona rossa, chissà, perché ormai è un dubbio. Ciao caro. Grazie compagni, buona serata, grazie, buona trasmissione. Grazie a te Cigo, saluta a casa. Un bacio. A casa saluto certo. Tutti, tutte, tutto. Against the system and cross all boundaries. From independent yards we come again. This global area misc again. From we streets we are some arrows, cannons and arrows. We all the sail, we knew can fail. Long time we are getting on fighting. Before we get with future and then it's time to party. Sister making music is another lie. We say the same situations. On a little ship we cross on the ocean. Made the game, we made mistakes. Sometimes we lose the nerve. The reason that we are a family and helping each other to stay on the earth. We'll be right back. inside us, we are musical activists. Some got them, Babylon, they run them around, they call me terrorists. But we are pirates in a deep concrete, superheroes, stronger feet. Breakfast, homies, poker, best, and that you drag the rasta. We are massive teacher, we are rockers, some boys. Some fancy on the boys, and revolutionaries. We are immigrants from another nation looking for solutions. We never stop, we fight, yeah. Vorremmo richiamare in questo momento i radiofornisti di Zona Rossa a salire in radio e a smetterla di ingozzarsi di pizza appena di sotto, grazie. Ora che la radio è tutta mia e finché lo sarà, vorrei provare a raccontarvi qual è il senso della vita. E il mio senso della vita è... E andiamo a richiamare le persone che ci cercano perché sono in ascolto, sono pure in ascolto ovviamente perché magari dici non è che me lo ricordo proprio per forza che c'è Zona Rossa, ma tra poco sarà così, nel senso che vi abituerete male e risponderete come Rachele che poi ci introduce un discorso che è durato tipo 40 minuti. Pronto? Eccola, benvenuta! Aspettate che vi spengo in radio. Madonna! Se no abbiamo i 10 secondi della differita. Ciao Andrea, come stai? Ciao! Bene, dai, stravolta oggi. Voi come state? È il giusto mood per affrontare la puntata di oggi. Vero, stravoltissima con un bicchiere di vino. A poco, guarda, perfetto, perfetto, preciso. Quindi abbiamo il piacere di avere una ribelle in onda, dobbiamo dirlo. Dobbiamo dirlo. Che sono Andrea la ribelle. Esatto. Nel programma Le Ribelli. Esattamente. E che ultimamente stiamo contaminando con la nostra Zona Rossa nel nostro programma. E poi c'è sempre Culli con noi. In che senso? Ultimamente è sempre lì a importunarci. Ah, pure! Chiedo scusa. Temi scottanti, smetterò di farlo. La prossima volta la telefonata non la fate col vostro telefono, va bene? Mettiamo così. Quindi facciamo anche la tecnica delle ribelli adesso. Vedi tu. Mi piace come è iniziata questa conversazione. Noi bene, stiamo finendo la sudata cena, finalmente. Giù c'è un... Anch'io? Esatto. E quindi volevamo introdurre quello che era il tema della puntata, e lo fa un attore, perché abbiamo anche l'attore adesso. Tanto okay, come è seduto. No, scusate, sto mangiando. Come un attore. No, sono seduto come una vamp. Esatto. 50. Si è sparapanzato sulla sedia. Secondo me è merito dei 43 gradi che ci sono in radio. Esatto. Ah, okay, e uno okay. Si attorciglia su se stesso a un certo punto. Scusaci Andrea, perché volevamo far capire ai radioascoltatori e ascoltatrici il fatto che il nostro attore Tommaso Russi era spalmato sulla sedia che neanche Sofia Loren ha massimo splendore. Baccato, sdraiato. Gambe incrociate, curve mozzafiato, posa intellettuale, microfono così appoggiato sulla mano e delicatamente avvicinato alle labbra. Allegheremo foto. Esatto. Ah, allegherete foto, va Tommaso bene. Ti introduce a quello che è il tema e la domanda della puntata. L'ozio. Parate. L'ozio. Qual è la forma di ozio perfetta che praticheresti domani se ne avessi la possibilità? Allora, state beccando la persona più sbagliata per parlare di ozio, perché io... Questo è zona rossa. Mai... però se dovessi oziare, la cosa che farei, io vi dico la verità, l'ho fatta ieri. Ho fatto uno sgarro, sono andata a mare. Di martedì, per te l'ozio è uno sgarro, quindi. Ah, interessante. Cattolico. No, ho fatto uno sgarro perché sono andata al mare. Ma dove l'hai trovato? Ma d'inverno il mare lo tolgono, lo trasferiscono dall'altra parte. No, no? Giuseppe. Allora, il mare d'inverno è bellissimo. E ragazzi, ieri c'erano delle meduse al mare che voi non avete neanche idea, erano enormi. Ma quindi hai anche fatto il bagno? Vi allego foto. Brava, allego foto. Brava, la vogliamo in chat. Lo sai che abbiamo una chat con cui puoi comunicare con la radio? In modo che così si possa vedere in diretta. Adesso non riesco. Aspettate. Devo provare, sì, devo trovare la chat della radio, ora che lo faccio, ve lo mando dopo. Va bene, ce lo mando dopo. Hai fatto anche il bagno? Meduse a contatto? Meduse no, no, ho fatto una camminata di 10 km, però ho visto un sacco di gente fare il bagno. Perché c'erano quasi 20 gradi. Ma dove? Fatto. Ero a Rapallo, tra Rapallo e... sì, ero lì. Come si chiama? Mamma. Sì, Liguria. Comunque lì sulla costa Libre. Sulla costa Ligure. È sul riscaldamento globale, Tommy. Cazzo, 20 gradi a dicembre in Liguria. È sul riscaldamento globale. Sì, ma erano tra i 15 e i 20 gradi. Comunque il mio ozio è sempre andare in giro. Andare in giro a zonzo come una vagabonda. Ci sta, ci sta. Anima un po' zingara, insomma. Molto bello, molto bello. Io sono molto zingara, sì. Sì, sì, mi piace perdermi in giro e mi svago. Bello, un sacco. Bello, bello, interessante, interessante. Questa è una risposta secca, devo dire. Esatto, ma quindi allora la tua concezione di ozio qual è? Nel frattempo si sente con boccone in bocca grosso più o meno come... Non so, la realtà si è operato i denti di poco fa. No, si sta preparando per il padrino. Sono un criceto in questo momento, no? Cioè, tipo, stai collezionando cibo? Sì, esatto. Le guance. Esatto, per l'inverno. Esatto. Ma ti via... Vabbè, allora mentre sto zitto parlate voi. Dai, vabbè, attore Tommaso Russi, prego. Stavamo dicendo, appunto. Esatto. Sì. Che praticamente qual è il tuo concetto di ozio? Allora, naturalmente anche tu che hai studiato qui in Italia, penso, se non sbaglio, avrai ricevuto questo imprinting dal liceo, cioè l'ozio era quell'attività che gli antichi romani facevano al di fuori degli obblighi della vita politica e pubblica. Esatto. Per costruire qualcosa di più del suo animo, eccetera. Oppure c'è l'ozio che me ne sto sparapazzando sul mio divano, vaffanculo. Oppure c'è l'ozio, come appunto poteva essere la tua versione, del tipo faccio qualcosa che mi piace, che tendenzialmente mi è negato. Esatto. Per me è quello l'ozio. Oziare è coltivare un po' se stessi, i propri interessi e fare quello che non si può fare mai, no? Ma quindi, quindi per me è fuggire. Fuggire. Ma questo vuol dire che quindi... normalmente nella tua vita tu sei purtroppo costretta a fare cose che un po' ti distruggono, ti logorano, ti dispiacciono, non sì, ti un sacco. E quindi no, vabbè, ti costruisci dall'altra parte. Non è un modo diverso di costruirsi. Zona rossa terapeutico, ripeto. Esatto. Sì. Vero? Zona rossa terapia. No. Non è che scappo dalle... È perché veramente sono molto curiosa e a me piace molto investire il tempo in questo modo. E quindi è così, ma perché... Poi parlo con le persone, mi perdo via, non è che vado per... Cioè, l'assenza di uno schema. Ho uno scopo, mi perdo proprio. Ah, ok. Cioè, l'assenza di avere un... Zingarona, mi piace parlare con le persone, mi piace conoscere le storie, di conseguenza appena posso parto e vado, me ne vado. Ok, sì. Molto bello. Molto bello, molto interessante. Mi ha fatto riflettere anche su di me un sacco. Ho deciso di perdermi. Anche perché sta arrivando il punto. Tu immagino che conosca il format di Zona Rossa. Sì, ovviamente. Diciamo che adesso la cosa interessante è che alle domande che abbiamo sempre fatto agli ascoltatori e ascoltatrici, poi noi rispondiamo noi. Dettaglio che continuo a dimenticarmi, perché non so che cazzo dire poi. Quindi alla fine della puntata noi risponderemo alla domanda che di solito facciamo in giro. E io sto prendendo spunti molto interessanti per riflettere su di me da queste telefonate. In realtà. Ok. Quindi, okay. Sì, perché in realtà è una domanda difficilissima, come si fa cioè, assolutamente. Com'è per te l'ozio? Assolutamente. Cioè, per esempio, per me non è per niente rilassante stare sdraiata a guardare la tele. Oh, presentiamo il nostro stagista. Esatto, esatto. Ah, esatto. Ok. Potreste trovarvi benissimo. Ci ha appena detto che essenzialmente lui non vive, se a un certo punto non riesce a mettersi sdraiato su un divano a guardare il filmetto, con tazza, con goccia di miele e gatti. E la coperta, la copertina con le braccia. No, ma io lo invidio un sacco, a dire il vero. Cioè, vorresti essere un po' anche così. Abbiamo parlato anche di invidia. Ah, vuoi uno spoiler per la prossima puntata? Dai, vai. Te lo fa l'attore. Abbiamo anche un attore. Attore Tommaso Russi? Sì, mi dovete mandare anche la foto. Sì, la foto l'abbiamo fatta. la pubblicheremo. Nella prossima puntata affronteremo il tema delle emozioni. Quanto è attore! Incredibile. Non voglio partecipare, ho troppe emozioni dentro di me. Invece ti chiameremo e risponderai. Mi chiamerete. Abbiamo contato e siamo arrivati solo a 16 per ora. Esatto. Quindi la gara sarà arrivare a 6.000 circa emozioni, perché questa pare essere la cifra massima di emozioni che si possano provare. Penso di averlo letto in un articolo di recente. Quindi capito, noi ci muoviamo. Allora, potenzialmente possiamo provarne 6.000, invece ne proviamo quante? Prima le abbiamo contate, in 3 siamo arrivati a 16 in 2 minuti. Però magari potremmo arrivare a effettivamente è impegnativo. Sì. 6.000 addirittura. Sono magari me lo sono sognato, sono una fonte poco. Ciao mamma, vuoi salutare? Devi! Sono rossa. Sì! No! Non avevo capito niente. Pensavo che fosse lei a salutare la mamma. Invece no, stava arrivando la mamma al telefono. Oddio, facciamo. Per un attimo ho sperato che potessimo parlare con tua madre. Invece non è successo. No, mi ha solo scaraventato in casa il gatto. Ci sta. Puoi passarci il gatto, se vuoi. Esatto. Ma senti Andrea, io a questo punto volevo soltanto esporti un attimino come funzionano le cose. Allora, le ribelli costruiscono in maniera seria e per tempo degli ottimi programmi radio in cui ci sono approfondimenti, collegamenti, ovviamente, documenti eccetera, certo. Noi partiamo da quello che Lorenzo pensa di aver letto una volta. dico tutto. Cioè, va bene. E poi lo rielaborate voi. Forse. No, lo fanno gli altri. Voi lo ricamate. Lo fanno gli altri. No, la puntata, la puntata la fate voi. Noi siamo degli impiegati della Telecom, in realtà. Certo. Operai. Noi facciamo tanto chiamate, colleghiamo robe. Negli anni 30 avremmo passato il tempo a scambiare gli spinotti. E poi fate belli col culo degli altri, in pratica. Pure gli insulti adesso. Sai qual è la cosa peggiore, l'ho già detto. No, l'avete detto voi, l'avete detto voi. È vero. Aspira un fibra contro vacca. Vai. Attore, bravo. Io voglio i jingle. Dai, ci vorrebbe il tastino che quando fai. Vabbè, Lorenzo, l'ho detto la volta scorsa e lo ripeto anche adesso. Considera, Andrea, che quando arriva a Zona Rossa a metà settimana è il momento più alto per me di ilarità nella mia vita. Cioè, vita, il pomeriggio sono pippato come pochi. La mattina mi sveglio proprio tipo, oddio. E sono tutto frizzante. Oggi al lavoro salutavo la gente. Buongiorno. Pensavo, Lorenzo, divertentissimo. Pesante. Lorenzo, sono 8 mesi che ti metto la cocaina sul microfono. Non hai capito niente. Questa è la verità. Esatto, cioè, sono 8 mesi che tu ti esci tutto bianco. È da quella sera che c'è stato quel momento di ilarità pesante quando Guglielmo ha detto che siamo morbidissimi e io non ce l'ho fatta. Era la prima volta che diceva morbidissimi davanti a me e io non ce l'ho fatta. Colpito, affondato. Morbidissimi non hai retto più. No, con la tecnica. Con la tecno da spiaggia sotto, no. Ah, ok, bello. È vero, anch'io. Era agosto. Delicatissimi. Sono morto dal ridere, vabbè. Sì, croccantoni. Finita va la bene. Pubblicità, Zona Rossa. Esatto. Vi saluta. Grazie, Andrea. Grazie. Grazie mille, Andrea. Ciao, ragazzi. Ci sentiremo. A domenica. La mia prima telefonata col telefono, grazie. Grazie, Samsung. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie, ciao. A Samsung. Allora, io vi inviterei a guardare il profilo d'onda della prossima traccia, che io ho sentito alla radio ma non mi ricordo come fa, per cui ce l'ascoltiamo e vediamo che com'è. Devo dire che la regia di Guglielmo siamo in ottime mani. Vero o no? Comunque volevamo dire assolutamente tanti auguri Vale. Tantissimi auguri Vale, ti salutiamo. Vediamo se c'è un coro di voce adesso che sale dalla stanza dalla sala di sotto. Dovrebbe sentirsi un urlo tipo di giubilo, se non segue vabbè fa niente, è andata così. Chiameremo quell'urlo al telefono. Esatto. Madonna, che storia. Sei un genio, sei. Buon ascolto. Baby, all the time, every day, all the men. yak tum kar bas balge balge balge li ya ich mis kis li ka melite karavani ni pika homik pat om ein sat aya mergit ned und sid und mesti sin ja üksi kauni mun haare mis neid päike tundub puuvaid stop seisku aeg nii kaebleb neid see kaamel siin jutta ära meil viib nüüd stop seisku aeg nii kaebleb neid see kaamel siin jutta ära meil viib on mul laillimu siin, kiirus on tohutu, õhus kuid on surmav kaas. Ja mu mees, kes istub kõrval, hoiab rooli. Kõik ma olen saanud, mis jääles olen ihkand kodul luksimaga, hingel on külm. Ma uurin silmanurgast mees, kes vaatab ainult teele. Stop, seisku aeg. Nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meil viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meil viib. Meid ju viib, meid ju viib, meid ju viib. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. You thought of me. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. You thought of me. Meid ju viib, meid ju viib, meid ju viib. Siin kuhu viib ette, kui kõikjal katastroofid metalli karvis kinni me. Üksi karavan teele ette jäi, ongi aega. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutt aeva meil viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutt aeva meid viib. Meid ju viib, meid ju viib, meid ju viib. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutt aeva meid viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutt aeva meid viib. E comunque avevo già acceso il microfono 5 secondi fa, scusa, zona rossa. Prendiamo gli eccetera. Attori sotto gamba, prendiamo gli attori. Ci stavamo confrontando sulla chiusura del programma, della giornata, della serata. Dovremmo parlare anche noi della nostra concezione di ozio. Arriverà quel momento, ma prima non ho il numero. Cioè, oh, che cazzarola. No. Questo è una cosa che si mette abbastanza a ruote. Dai. La moglie. Noi stiamo cercando anche qui di essere un po' a zona rossa terapia. Anche stasera, allora, tra l'altro. Abbiate pietà tante di volte. Me, perché è la prima volta che uso così il telefono. E continua a somigliare a un vecchio anziano signore. Ho tolto che dice, gli occhiali. Ma si usa questo. Ma si muove questa mettere cosa. La mascherina, perché sennò si appannano. Prima l'ha messo. Giustamente. Ma anche adesso hai la mascherina addosso. Ah, Lorenzo, certo, non sei dimenticato. È così confortevole che non la senti nemmeno addosso. Grazie Giuseppe Conte che ci hai dato la tutela collettiva della salute, grazie. Se non risponde lei, non rispondeva neanche lui. Invece no, risponde. Ciao! Attenzione! Ah, ma siamo in diretta? Siamo su Zona Rossa! Mimmo libero! Allora, siamo su Zona Rossa tutti quanti, perché questa sera c'è... No, zona rossa no, la radio, raga, è la radio di... Lore, siamo in... quanti siamo? Ciao Lore? Non lo dire che poi diventa un'infrazione di legge, stiamo calmi, calmi. Paola. Non troppi però. Non troppi, esatto. DCPM rispetto alla mascherina addosso sempre. Io ho detto zona rossa e la gente mi ha guardato con gli occhi vitrei. Giusto! Madonna, così ci piace. La paura dovete avere, la paura. Esattamente, comunque rilassiamoci tutti e tutte. Voglio dire chi è questa persona, saluta. Forza Dea! Forza Dea. L'Atalanta? Sì. Quindi c'è un atalantino? Pare, c'è un atalantino. Ma è una ragazza che ha parlato, penso. Penso proprio di sì. Com'è finita la partita? Come giocavano? 1-1, ragazzi. 1-1, incredibile. Cristiano Ronaldo ha sbagliato un rigore. Sbagliato addirittura, non è che gli hanno parato. Parato. Molto forte. Allora è interessante, parato. Bene. Comunque, Lorenzo, cioè, se non mi riconosci, sì, mi offendo. Ti ho riconosciuta, è Giulia. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Ma è perché prima vi ho visti in diversi schermi, non pensavo foste insieme. Perché noi ci dividiamo tra schermi e tra stanze. Non facciamo quelli che parlano dei cazzi delle fighe loro. Diciamo perché prima. Cosa avete fatto prima che vi ho visto in call? Cosa stavate facendo, Paola e allora, Giulia? Allora, grazie. Io e Giulia eravamo collegate con il laboratorio Il Quartiere delle Meraviglie di Praxis. Che storia. Che tra l'altro mercoledì prossimo farà un evento online fantastico di drammaturgia. Se volete sapere cos'è Praxis, andate ad ascoltarvi il podcast di Zona Rossa in cui parliamo di Praxis, ve lo metteremo, che è l'associazione di cui fanno parte Paola e Giulia. Andiamo avanti. Grazie, momento spot. Detta ai tempi. La fate ancora la cosa della canzone, di scegliere una canzone? No, diciamo che facevamo anche la cosa della domanda, se ti ricordi, giusto? Ci voglio fare una domanda. Quindi partiamo dalla domanda. Intanto volevo fare una premessa, poi vi presentiamo anche l'attore che abbiamo assunto di recente. Attore Tommaso Russi, quindi siamo io e Guglielmo. E TR7. TR7, Tommaso Russi, in diretta con noi. Ma dovevate dirlo prima. Ai microfoni di Radio ZM. Aspetta che mi cambio allora, mi veste elegante per Tommaso. Oddio, che flirt, oddio santo. Domani saliranno i mi piace sulla pagina Facebook. Mamma mia. Tempo di taggarlo. Pssum. L'aria diventa rovente, zona rossa, cavolo. Questo diventa uno spot di 15 secondi di Radio ZM. Sto sudando. Comunque, volevo dire una cosa, una premessa, poi parliamo di tutt'altro in realtà. Io volevo chiamare Mimmo e non ho il numero, mi sono accorto. E allora ho deciso di... ma te l'ho anche mandato. Mimmo, scusa, ma loro volevano chiamare te. Ma come chiamare? Eh sì, solo che il tuo cellulare è Lucano. Pignola Regna. Ciao Mino! Mimmo libero! Mimmo libero! Infatti, gridiamolo. Benvenuto su Zona Rossa, mi dispiace ma ho perso il tuo numero e non l'ho salvato, non sono riuscito. Insomma, volevamo arrivare a te. Vedevo Lorenzo Picarazzi, credevo, perché abbiamo lo stesso telefono con Paola, e credevo fosse il mio telefono ed ero onoratissimo. Vabbè, sì, scusa. ma Paola, cosa dici? Noi facciamo parlare gli ospiti, non parliamo noi. Però vabbè, già che ci passi la parola, ti passiamo Tommaso Russi, che è l'attore che abbiamo assunto in questo programma, che è un programma di telefonate, appunto, senza preavviso, e che ti spiegherà la domanda della puntata a cui dovrai rispondere. Ci sei, Mimmo? Sì. La domanda è: che cos'è l'ozio per te? In forma concreta, se domani volessi oziare, cosa faresti? O non faresti? Ah, questa è una bellissima. Allora, a Milano credo assolutamente niente. Però poi in questo, perché l'ozio per me, raga, è la Basilicata. Cioè, risponderei così. È una regione. Esatto. È una regione geografica. Dalla montagna fino al mare, tutta. È quello l'ozio. Forse suona un po' dura questa risposta qui in diretta a Milano, però è che non ce l'ho proprio fatta. Peccato che non riesco a capire come mai non ti piace la nebbia, lo smog, la tristezza, la fretta di lavorare, salari bassi. No, poi comunque va detto, sono 20 giorni che la nebbia, cioè qualcuno mi diceva che ormai questa cosa della nebbia a Milano era soltanto una favola. Sì, si vedeva solo nel finito top. Sono 20 giorni, è solo nebbia, ragazzi. mi stanno odiando, forse più di qualcuno mi sta odiando, io non voglio farmi odiare, però è un dato di fatto, cioè, vabbè, ma della Basilicata, scusa, cos'è che ti piace, che è ozioso? Il fatto che ho conosciuto te. Ma è bellissimo, ma fantastico. Soprattutto, cioè, immagino come sta ridendo Paola adesso. Ma tra l'altro, ragazzi, Zona Rossa è l'unica trasmissione dove a un certo punto la gente se ne frega e parla da sé. Autogestione. Autogestione. Prego, continuate. Scusate, scusate. Della Basilicata, ovviamente, cioè, prima di tutto ti piace Pignola, no? Ovvio. Cioè, proprio... Del cuore, sempre del cuore. E aggiungerei le mozzarelle di Maddalena. Madonna. Ecco, questo mi sembra anche un altro elemento. Cioè, che non è nulla di malizioso. No. Ma guarda, hai fatto le 10 di Tommaso, perché Tommaso, oltre a essere un attore vocale, è anche un attore fisico. Sì, molto. E molto. Installeremo una videocamera, prima o poi vi faremo vedere tutto quello che interpreta Tommaso della puntata. Pensato alla tabaccaia di Amarcord, dai. Madonna, ragazzi, ma quanta cultura, io non sto capendo un cazzo, infatti, non capisco riferimenti culturali, niente, ma invece volevo chiedere, questo mi è ripartito, va bene, morbidissimo, Lorenzo, la parola è morbidissimo. Scusate, noi, cioè, a questo punto volevo riportare indietro la cosa, allora, l'ozio è una ragione geografica, l'ozio è un piatto da mangiare, le ottime mozzarelle, cioè, quindi l'ozio per te è ciò che ti fa stare bene in generale, e che è anche qui dissociato dalla tua vita quotidiana, dal lavoro, dalle necessità impellenti, pagare le bollette. Sì, dai, che mi fa star bene, non lo so se necessariamente deve farmi star bene, però quantomeno deve farmi mangiare. Ah, mangiare l'ozio. Proprio l'ozio? Sì, sì, sì. Quindi, e come? Cioè, mangiare bene per te è l'ozio? Ecco, la chiave è questa qui, raga, sì, questa. E con il... sale, giusto? No, perché qua c'è una disputa che va avanti da mesi su questa roba del sale. Appena fatto una polenta e non ha messo il sale nell'acqua, raga, cioè parliamone. Paola, parliamo. Ma parliamone. Paola, con la B. Ma chiedo parliamone. Ma chiedo scusa, però, secondo Mimmo, ma tu, dato che per te l'ozio è questa passione incredibile di mangiare, tu, cioè, più o meno pesi 130 kg? Cioè, come funziona? Sei una persona... Per niente. Allora, raga, ne pesavo 100, io a 18 anni pesavo 97,8, ho lo scontrino della farmacia ancora con me. Per 1,70 m. Poi a un certo punto un mio amico, che ora vive in Colombia, ha iniziato ad allenare una scuola femminile di calcio. Questa era l'incipit della, della storia, poteva sembrare un'altra cosa. Avevo un amico anch'io che... che perdeva peso di brutto una riga dopo l'altra. Esatto. Non si sa perché, non si sa per come sta puntata sta prendendo una storia. Direzione. No, scusaci, dobbiamo interrotto. Quindi un tuo amico è iniziato ad allenare una squadra lì in Basilicata e... Sì, di calcio femminile, che per comunque gli anni, diciamo fine 90, no vabbè dai, inizio 2000, era una grandissima novità per la Basilicata anche, no? Quindi mi coinvolge, mi dice dai, vieni a fare allenamento con noi, e quindi io piano piano, circondato da tutto questo contesto nuovo, bello, inizio a, bello, soprattutto molto bello, molto inizio bello, a correre, presso le ragazze, e così poi chilo dopo chilo, no? In 4 mesi ho tolto 30 kg. Cazzo! E da allora... Poi, complimenti! Sì, davvero, davvero, davvero. Cioè, questo è proprio la realtà. E niente, raga, e poi io... È uno spezzatino! È arrivata! Cosa è successo? Arrivata. Cosa è successo? Che c'è un demone? Terza, è la terza. C'è un demone apparso nella stanza. Cosa sta succedendo? Non si capisce. Non è l'eredità che ce l'ha chiamata a casa. Tranquilla Paola, prima o poi anche Tommaso inizierà a fare queste cose a Zona Rossa. Si metterà a fare personaggi strani che entrano dalla porta. Io ci credo. Bello, io ci credo. Caratterista. Gli diamo 4-5 personaggi diversi. Dai, ci sta. Dobbiamo cambiare modo di pensare. Hai iniziato. Il gol dell'Inter, così. Cosa non ho capito? Quasi gol dell'Inter. Quasi. Ma questa casa quasi. Vive per il calcio, praticamente. Quasi. Ma che meraviglia. Abbiamo appena visto Juve-Atalanta. Certo. Ora c'è Inter-Napoli. Sta uscendo Mertens, infortunato. Vabbè, notizie. Ragazzi, ma perché non facciamo un Zona Rossa Sportiva? Guarda, perché Mimmo, guarda, state toccando un tasto talmente dolente che non so se... riesco ad aprirmi. Sei buttato dentro solo sport. Non faccio altro che guardare le partite, mi piacciono. E mi piace. Mimmo, cosa ne pensi se facessimo, dato che è mercoledì sera è già serata di Champions, cosa dici se intanto ti chiamiamo e ci facciamo fare 20 secondi di radio telecronaco come se fossi Bruno Pizzo negli 80? Allora ragazzi, andiamo attacco, dai, così, una roba del genere. Cosa ne pensi? Non mi ha sentito per niente. Presidente. No, mi sa proprio di no. Presidente. Presidente. Mi sentite? Qual è il futuro dei giovani, Presidente? Hanno deciso di lasciare il telefono sul davanzale della cucina e ciao. Molto zona rossa. Non ci hanno messo giù, però. Ma cosa è successo? Non ne ho la più pallida idea. Ma poi stiamo parlando con lui proprio. Cioè, gli stiamo dicendo... Pronto? Pronto? Ho comprato un telefono pacco. Ma va. Raga, non ci sento. Paola, Mino, ci sentite? Ci sentite? Niente, ragazzi, zona rossa è incredibile. No, succedeva anche col tuo prima. Sta crollando il sistema, raga. È tutto così. I telefoni. Sono ad avere un dolore esistente alle orecchie, che per mia sfortuna hanno un padiglione praticamente sviluppato, perché con le cuffie dopo un po' mi si fa un dolore alla Madonna. È esattamente così. Già. Stiamo provando a richiamare. L'attore aveva uno spunto e gliel'ho tagliato. Comunque qua c'è qualcuno che dice falsità. Cazzo, mi mancava ascoltarvi. Falso. Falso sicuro. Falso come Giuda. Io speravo che avesse scritto falsità. Falsità. C'è qualcuno che scrive falsità. Maiuscolo. Così. Siete falsi, Maria. Qualcuno... Lore? Sì? Sì? Ci sentite? No, perché Mimmo è arrivato dicendomi sto cellulare, tieni, è pronto lo spezzatino, regà, questo deve oziare. Ma noi stiamo facendo una proposta di lavoro, vabbè, è andata così. È arrivata pure Giulia. Perché... Col vino, un bicchierino di vino rosso. Esatto. O Coca-Cola. Ragazzi, bella, facciamo un cincin a voi. Ragazzi, possiamo fare tutti un cincin? Sì, sai che ci stanno andando a stendere. Sì, viva gli sposi. Ciao. Bravi, viva. Buon anno. Ciao, buon appetito. Urla. Ciao. In tutte le lingue del mondo. Ciao, Picarazzi. Ciao, ne? Bella storia. Siamo riusciti a disturbare una cena bellissima. Anche questa missione ha funzionato. Vabbè, ma era tra pochi intimi. Raga, lanciamo la musica e poi i nostri ozi personali e via. I usually come to parties, I'm a little bit shy but naughty, but since you laid eyes on me, I want to get up and move my body. I'm a little bit shy but naughty, but since you laid eyes on me. Wondered in my head if you'd wanna play. You said no way. In the dark we're back again. Wanna say the things that I never said. Replaying in my head. I don't usually come to parties, I'm a little bit shy but naughty. But since you laid eyes on me, I want to get up and move my body. I'm a little bit shy but naughty. But since you laid eyes on me, I want to. Yeah, la la la la la. Shy but naughty, but since you laid eyes on me. Grazie, attore. Abbassa le casse. Erca. La radio scalpita, Tommaso. Niente, alla fine abbiamo interrotto una cena e è andata così. È andata però così. L'ozio e la Basilicata. Però l'ozio e la Basilicata, quindi abbiamo raggiunto, diciamo, una sintesi più o meno, nel senso che abbiamo raggiunto una quantità di informazioni non indifferente. E ora io chiedo a Tommaso. Attore Tommaso Rossi. Che cos'è l'ozio perfetto per te? È il lavoro che faccio, perché nel mio caso... è un lavoro di creazione in cui l'ozio, lo studio e la ricerca fanno proprio parte del lavoro. Tanto che alcuni stanno cercando di, come è successo in altre nazioni, di far riconoscere anche il momento dell'ozio, nel senso di ricerca, di non produttività, come lavoro da riconoscere, come giornate lavorative, perché di fatto lo sono. Quindi nel mio caso l'ozio è il lavoro. Ma perché non è che il tuo lavoro ti piace così tanto che è come se non stessi facendo niente? No. O stai facendo quella cosa che vorresti fare in un momento di tempo libero? No, è perché è un lavoro che è improduttivo a livello... Non produce, o meglio, materiale. Sì, produce spettacolo, ma non produce un bene. Produce incontro, produce anima. Madonna, ragazzi. Ma quanta profondità casa, vedo, tutto, ciao. Non vedo più niente. Perfetto. È tutto buio. Devi metterti gli occhiali, cazzo. C'hai 500 anni. Per quello. Grazie, esatto. Tommaso. Devo dire che i soldi sono spesi bene. Finalmente abbiamo ricevuto un budget per l'attore che presenzierà, presenzierà almeno 10 puntate a partire dalla prossima. Fondazione. No, non si dice, è brutto fare. Ma se non ci abbiamo nessuno che ci dà i soldi. Ma infatti. Li ha pagati tutti Lorenzo. È da un anno e mezzo che lavora solo per pagare te. E basta. Guarda, solo per questo. Perché Zona Rossa salirà un livello veramente incredibile da domani. Da quando spoilereremo questa novità. Che ahimè, io non sapevo assolutamente. Ma scusate, ragazzi. Momento emergenza. Zona Rossa terapeutica. Rachele sfoga la frustrazione su di me per il fatto che non avete messo la canzone che vi ha chiesto. Fate qualcosa e noi agiamo subito. Noi agiamo subito, intanto ci mettiamo i saluti perché andiamo via. Esatto. Vogliamo tornare alle nostre case. Ma gli ho messo esattamente questa canzone. Ma è la stessa identica voi che ho messo prima. Non ascoltate la radio bene. Ma cocane, adesso vado a trovarla e gliela rimettiamo in conclusione, dai. Sarà così. E per te cos'è l'ozio, Lorenzo? Per me l'ozio è trovarmi in un luogo e in quel luogo non guardare il telefono per una discreta quantità di tempo. Quindi associo il telefono a un fastidio la maggior parte delle volte a cui devo badare, che però mi serve e mi è necessario per fare tante cose che voglio fare. Quando invece queste cose le posso fare senza quello strumento, quindi le ho intorno e... sto bene, è lì che posso dirmi. Infatti non è assolutamente il discorso del stare sul divano e non lavorare, quello per me quelle sono altre cose, quello è il riposo e la penso un po' come ne abbiamo parlato prima, appunto, che c'è un momento per riposare con Rachele, è un momento per l'ozio e fare altre cose, ricrearsi. Comunque è un'attività, l'ozio. Ricrearsi. Esatto, ricrearsi. Guglielmo, ma mettiamo stanno qualcosa. Chiamando qualcuno qua sotto fianco a me. Sì, scusa, mi ho messo pausa perché poi questa qua è la canzone che metteremo per la Chele, certo, dopo certo. Quindi scorrerà, la rimetteremo. Guglielmo, dici. Allora, per me ci sono due valenze dell'ozio. Prima valenza dell'ozio è la PlayStation. Ma ho capito, che bella risposta. Dopo i 22-23 anni ho capito che non avrei mai avuto veramente il tempo per avere tempo da perdere in videogiochi. In realtà non ce l'avevo mai, perché essendo in gioventù stato un grande appassionato di sport e basket, ovviamente ero 5 giorni a settimana fuori per il basket dalle 6 e mezza pomeriggio fino all'1. E quindi non avevo tempo di giocare ai videogiochi. Un saluto a Bellinelli che è tornato in Italia. Salve Bellinelli, vuol dire che gli è andata male in America, evidentemente. Ma vabbè. Evidentemente. La questione quindi qual è? Che le rare volte che nella mia vita mi sono trovato veramente ad avere il tempo libero in cui non dovevo e non potevo fare nemmeno niente, la PlayStation è stata veramente la riscoperta di quel momento libero in cui fai proprio una cosa improduttiva per te, per il tuo svago e stai bene. E devo ammettere che in realtà la mia psicosi mi ha poi portato a sentirmi un po' in colpa. Ho detto sì, vabbè, ho giocato 4 ore alla PlayStation, ma minchia, ma come sto messo? Potevo fare leggermi un libro, fare una roba un pochino più edificante. E invece sto facendo terapia su me stesso e mi dico no, vaffanculo, bravo. Io ho mollato. Massa, niente più videogiochi, non ce la faccio. Perché un giorno ho giocato 8 ore di fila, mi sono spaventato. Si chiama dipendenza. Mi sono spaventato, giuro, non riesco più a accendere quel gioco bello a cui stavo giocando. Tra l'altro ve lo consiglio, Death Stranding. Attenzione. Bellissimo. Invece seconda valenza dell'ozio, la saldatura. questa la mettiamo in pausa allora, saremo senza... Sentito Rachele? No, abbiamo sentito un deck secondo in cui puoi caricare un'altra così, traccia. Faccio così e poi faccio play di qua con e porto un'altra lei. Traccia, sì. Meraviglioso. Detto questo, le fantastiche cose che ci porta all'innovazione tecnologica. Detto questo, la seconda valenza è la saldatura. La saldatura è un tipo di lavoro dove ci vuole molta concentrazione in un unico punto. E saldare mi rilassa ed è ozio, è proprio giocare, anche perché non lo so fare, quindi mi sto perdendo completamente da totale, come si dice, non novizio e nemmeno apprendista, ma principiante, esatto. E quindi sto spaziando in questo mondo che ha 1,5 miliardi di utilizzi e modi, ma a caso completamente, perdendo tempo. Per cui effettivamente faccio un lavoro, perché poi si creano anche delle cose di ferro, ma... C'è un telefono che suona. Quindi, perché l'attore è stato chiamato. La mia innamorata. Attenzione. Mettila. Non so, adesso si incazza. È come vabbè, si mette. Si incazza cosa? No, mica per... Pronto. Aspetta un attimo. Momento. Aspetta. Non ci sente te. È su. Esatto, secondo. Pronto, Satya. Chi sono questi? Ciao Satya. Beh, dai, non trattarci così. Siamo Guglielmo. Aspetta, fa sentire, fammi riconoscere. Ciao Satya, come stai? Parla ancora, fa sentire. Satya, sei in diretta su una radio, facciamo così. Sei su Radio ZM, questo è il programma Zona Rossa. Oh! Quindi io sono Lorenzo, capito. Cane. Va bene, allora a questo punto voglio vedere se riuscirai a riconoscere anche il suono sabbioso molto fastidioso della mia voce, che mi sono accorto ascoltando i podcast essere tipo uno col naso tappato e la bocca molto larga, e mi immagino così quando sento la mia voce al podcast. Non lo sa il mio chi nome. È? Non lo sa. Chi sono? Sai che ancora niente? Niente. Lo so. Rimarrò l'attore misterioso. Nel frattempo, invece, il tuo innamorato. Possiamo dire l'abbiamo, così? L'abbiamo sequestrato un po'. Sì, ti spiegherà di cosa stavamo parlando noi stasera. Il tema di questa. Siamo in onda? Certo. Siamo in onda. Il tema di questa puntata. No, porco Dio, puoi dirlo. Siamo radio atea. Sì. Il tema di questa puntata è l'ozio. E quindi ti chiediamo. Che cos'è per te l'ozio? Se domani avessi il tempo completamente libero, cosa faresti per oziare? Presidente? Aspetta. Sì, ci sono solo... Sta arrivando. È una passeggiata senza una meta, a cazzo. Oh, interessante. Ci piace. Interessante. Il fatto che abbia utilizzato il gergale a cazzo ci spiega che ci crede davvero. Perché esatto. Sennò sembrava una risposta un po' preimpostata. Proprio invece, dove cazzo voglio andare io. Quella roba decore che ci piace. Decido io. Giusto, benissimo. Grazie Satya. Puoi parlare con Tommaso dei fatti vostri in diretta. Vai, noi staremo qui ad ascoltare in silenzio, facendo intanto dei commenti tipo, ma hai sentito? Eravamo in chiusura, sei proprio l'ospite finale, quella dei titoli di coda, è presente? Beh, quando avete bisogno, sempre. Ma hai chiamato te, come facciamo? Se vuoi ci salviamo il numero, ma a tuo rischio e pericolo, andiamo in onda mercoledì sera. Grande pericolo. Facciamo telefonate senza preavviso. È una rubrica proprio. Esatto. Oh, chiedo scusa, è partita una canzone. Va bene, magari ci sentiamo dopo. Grazie Satya, ti lasciamo. Ciao. Tommaso, fra un paio d'ore. Ciao. No. Ciao. Non ha detto di no, mi spiace, no, lo voglio starci io. No, non ha detto niente di tutto questo. Dopo, come Riccardo, ci scriverà un messaggio a Tommaso. Brutti bastardi, pezzi di merda. Mi avete rovinato la vita, merda. Io faccio così, che me ne frega. Zona Rossa vi saluta, è stata una puntata veramente, veramente massacrante. Sì. Come la sigla. Sono tipo 2 ore e mezza di trasmissione. Volevo fare un annuncio per Zona Rossa. Come ben saprete, i podcast sono sempre stati catalogati come i numeri dei giorni da quando è stata indetta la prima Zona Rossa, quindi dall'8 di maggio, e tendenzialmente la penultima puntata eravamo arrivati alla 246esima giornata da quel Zona Rossa. Ovviamente poi agli atti non è così, quindi ho deciso di cambiare. Giusto. Ho deciso di numerarle nuovamente. Siamo alla 27esima puntata. Attenzione. Da quando abbiamo iniziato Zona Rossa. Quante ne abbiamo fatte? 27. Ma se noi mettessimo qualcuno di pagato ad ascoltare quante cagate abbiamo detto, chissà a che numero saremmo arrivati. Secondo me questo è un lavoro che andrà veramente bene, tutto in post-produzione. Sì. Bellissimo. Poi la sistemiamo, Carmine. Allora. Carmine, poi questa la sistemiamo. Ma ragazzi, ma è meraviglioso avere la trasmissione di Tommaso Rossi, cioè, e pensa che solo la prima puntata sta solo sgranchendo le gambe. Ma guarda che roba. Cosa può fare fra un po'? Cosa può fare fra un po'? Sequestrato. Cari e care, tanti auguri ancora alla Vale che ci sta ascoltando giù da sotto. Ne fa 28, diciamolo. Per la sesta volta, ma ne fa comunque 28. Tanti ci sentiamo auguri. A Natale. Sì. Ci sentiamo a Natale. Ciao, Nem. Autore Tommaso Russo. Madonna, era già pronta, era già pronta. Ciao Rachele, ascoltate la canzone. And cross all boundaries. From independent yards we come again. Discover how we are Minsk again. From we streets we are some arrows, cannons and arrows. We all the sail, we knew can fail. Long time we are waiting and fighting. Before we get to the future and then it's time to party.